perché altrimenti qua io sono a vociola alta, no? Però serve. Dov'è la Marta? Vieni Marta, vai. Allora, questa sera, allora, innanzitutto mi chiamo Danilo Liglia, no? Per coloro che ancora non mi conoscono, perché l'altra volta giustamente qualcuno mi ha detto, lei ha iniziato a parlare ma giustamente non mi sono presentato, e potrebbero esserci, in base conosco quasi tutti, però potrebbero esserci delle persone che non mi conoscono. Assieme a tutti gli altri che sono qui, che sono tra di voi, alcuni sono seduti qui, abbiamo iniziato questo percorso, no? Che mi fa piacere che il 29 di agosto, beh, che è vero che le ferie ormai sono finite, c'è qui ancora parecchia gente di quelli, coloro che hanno partecipato nel primo e nel secondo incontro, ma anche delle persone nuove, quindi vuol dire che questo discorso sta contattando in modo trasversale parecchie persone. Allora, visto che ci sono anche soggetti che rappresentano varie forze, vari momenti anche importanti che stanno andando, che si stanno sviluppando a Como, il mio amico Michelini mi ha detto parla a tutto campo, no? Che è anche un po' la caratteristica, diciamo, di questi incontri, ma soprattutto la caratteristica di questo percorso che noi in questa fase perlomeno vogliamo mantenere, cioè una grande apertura, un grande dibattito. Poi dopo il nostro amico Luca Michelini è in grado di gestire abbastanza bene, come ha fatto nel passato, dando la parola a tutti, però chiedendo un tempo entro il quale ognuno deve stare per... l'ha dato anche a me, diciamo così, per cui vediamo di entrare subito nel discorso. Allora, diciamo terzo incontro questo. L'ultimo il 18 di luglio, dove c'è stato anche lì una buona partecipazione, con un notevole numero di interventi, forse anche non tutti ordinati, ma secondo me non è questa la cosa più importante. Nel frattempo non siamo andati in vacanza completamente, perché in tutto, anche nel mese di agosto, abbiamo lavorato sulla base anche di alcune decisioni prese la volta scorsa, su altre invece no, e giustamente che prima un amico mi ha fatto una giusta critica che avremmo potuto anche comunque vederci, mentre non abbiamo avuto l'occasione. Su che cosa? Perché l'altra volta abbiamo preso anche delle decisioni, perché cerchiamo anche di portare delle decisioni, no, operative, no, su alcuni temi. Abbiamo parlato di la carta dei valori, del regolamento, quindi di un incontro con le altre forze che stavano oggi dell'area del centro-sinistra lavorando sul progetto primarie, che io penso che è un dato acquisito, il discorso della primaria di coalizione, no? È un dato che è stato acquisito da, io penso, tutte le forze politiche dell'area del centro-sinistra, con esclusione forse, no, perché io non ho avuto occasione di sentire, del partito della lista di Di Pietro, dell'Italia dei Valori, che non ho avuto occasione di incontrare, non so se c'è qui anche qualcuno o se c'è la possibilità di contattarli, anche perché anche loro si ritrovano all'interno di questo. Siccome noi stiamo facendo un discorso a tutto campo, riteniamo che ogni forza abbia, no, dico, abbia anche il dovere, no, di partecipare, no? Abbia il diritto di partecipare, debba, perché secondo me tutte le forze devono e possono dare un contributo concreto. Qui davanti c'è del posto, se volete, ci sono alcuni posti per sedersi. Quindi nel frattempo invece abbiamo lavorato su alcune proposte di alcune commissioni, che invece ha lavorato su alcuni progetti, su alcuni progetti che volevamo proporre all'Assemblea, e dopo nel proseguo di questo incontro i giovani che hanno lavorato su questo potranno illustrarlo, no? Poi c'è stato comunque anche un grande dibattito a livello su Facebook, a livello di contatti anche personali, via mail, dove sono uscite, no, critiche, posizioni, proposte, Questo secondo me è importante con il discorso che stiamo facendo, no? Questo vuol dire che è una base di partenza positiva. Perché? Perché, e lo ripeto ancora una volta, la proposta che è alla base di questo nostro discorso è una proposta molto inclusiva, che possa veramente permettere a tutte le forze del centro-sinistra, no, che lavorano per un'alternativa comune alla politica del centro-destra, di proporsi veramente come momento che sa, che è in grado innanzitutto di rivolgersi a se stessa, no? Di sapersi anche parlare, di sapersi anche relazionare, di superare anche quei momenti che ci sono, che possono essere anche veri, no? che ci sono stati per diversità di linea politica, di rapporti anche forse personali, ma che in questo momento, no, devono passare in secondo piano. Qui c'è ancora un posto, ci sono ancora delle sedie che possiamo far passare se qualcuno la aiuta. E allora, scusatemi. Sì. Ecco. Pertanto, anche in questo periodo si è continuato a lavorare, no? su queste basi, no? Con anche una serie di contatti, non dimenticando poi che il primo degli obiettivi che noi dobbiamo discutere è quello delle primarie, no? Cioè l'obiettivo immediato, quindi anche la ricerca di candidati. E all'interno del nostro gruppo, no, abbiamo discusso anche sul ruolo di un'assemblea come questa, perché anche noi ci siamo posti il problema, no, diciamo, di fare uscire dei nomi, dei candidati, perché le primarie, per essere, come diciamo noi, primarie vere, devono avere dei candidati, delle persone che vogliono competere, che vogliono competere sul serio, gente che giustamente, no, proponendosi, no, ritengono di poter essere adatti alla funzione che viene, per cui c'è questa competizione, che è quella di diventare sindaco di questa città, però all'interno di un progetto complessivo che veda poi tutti coloro che sono, che si candidano per le primarie, che diventino poi un gruppo unico dove tutte le persone devono lavorare poi assieme, e quindi sia il futuro candidato sindaco che sappia includere, secondo la propria visione, no, tutti coloro che hanno concorso, e tutti gli altri, e viceversa, gli altri che lavorino poi con il candidato sindaco, perché questo per noi è la fase fondamentale, no, in questo momento, per un superamento di quelle divisioni. Mettiamoci in rete, no, per, quindi mantenendo anche le proprie diciamo, diversità, le proprie particolarità, però mettiamoci in rete per costruire veramente una alternativa e una capacità di governare il mondo. Io avevo scritto una mail, no, che avevo mandato a metà agosto: noi vogliamo costruire un gruppo, no, che noi vogliamo lavorare per costruire un gruppo che voglia guidare questa città, no? Giustamente un amico mi ha scritto: ma cosa avete cambiato, per fare chiarezza, no? Quindi forse ho sbagliato io il termine, la modalità. Per me il gruppo era quello che veniva dopo, no? Capito? Cioè quello di trovare veramente dei futuri amministratori, no? Che poi verranno anche scelti, no? In un modo innovativo, no? Quando abbiamo parlato anche l'altra volta, non dobbiamo poi fermarci soltanto delle primarie vere, ma anche lavorare poi per la formazione di liste vere, no? Di liste che rappresentino il meglio anche, no, della città, che possa andare a governare sia in consiglio comunale sia in tutti gli altri organismi paracomunali, no, che ci sono, no? Quindi adesso siamo arrivati a una terza assemblea dove si comincia a parlare, e si deve anche iniziare a parlare concretamente, perché questo deve essere lo spazio anche per le proposte, anche di segnalazioni, quello che vorremmo anche farlo, no, diventare proposte per segnalazioni anche di candidature, per le primarie. No? Noi avevamo detto, noi non vogliamo, questo non deve essere un posto dove si vota per, questo deve essere un posto dove si discute per, no? Si accettano, si discutono, si portano avanti anche delle candidature, vengono anche segnalate e poi dopo eventualmente vengono anche contattate le persone, se vogliamo, trovando gli strumenti, no? Diciamo, per trovare, individuare delle persone, dei soggetti che possono, che hanno le caratteristiche, che hanno la possibilità, eccetera, di diventare candidati, no, a concorrere per le primarie. Quindi questa sera io credo che una delle cose che deve uscire è da tutti, perché poi non, io spesso mi sento dire ma tirate fuori i nomi, no? I nomi si possono anche tirare fuori, lo dico così, puntando sull'uno o sull'altro, no? Se, invece io credo che i nomi dobbiamo farli uscire noi, anche rispetto, non so, a dei profili che dovremmo dare anche dei vari candidati, discutere anche di questo, no? In modo che coloro che poi chiunque, no, si può candidare, ha diritto di candidarsi, no, diciamo in modo autonomo, ci mancherebbe altro, non è questo il discorso, no? Però sarebbe veramente interessante, no, che a Como si aprisse questa nuova stagione con quindi delle possibilità anche di discutere in un modo diverso, no? Per arrivare a questo, a questi risultati, no? Nel frattempo anche a livello nazionale sono successe in questo mese tantissime cose che ci sono anche a far riflettere, cioè tutta quel provvedimento, la manovra economica di cui adesso stanno, non so se oggi cosa hanno deciso e che hanno discusso, ma io credo che veramente mette in evidenza lo sbando, io lo chiamo così, in cui si trova una certa classe politica rispetto ai problemi della società, ma soprattutto attenzione che vengano attaccate certe strutture a livello di base che sono della strutture di democrazia, che sono le amministrazioni comunali e tante altre amministrazioni, che sono attaccate duramente, no? E non è solo da oggi, ma da parecchio tempo, no? Qui si sta minando, no? Io credo, con certi provvedimenti che sono alla discussione oggi, una struttura di base della democrazia senza che ci siano delle reali alternative. Qui stanno facendo delle proposte di tagli, di riduzioni, così, ma unicamente all'interno di un discorso molto più generale, non imposto, perché qualcuno si è accorto e ha detto a questi amministratori che da anni continuano a negare che c'è una crisi, che c'è una crisi economica, finanziaria, sociale, adesso no, qualcuno gliel'ha avuto a far capire in un modo, e a queste indicazioni stanno rispondendo con anche 3 minuti ancora, con delle proposte. Siccome noi stiamo parlando anche di amministrazioni comunali, no? Questo deve essere anche ben chiaro tra di noi, che non soltanto enunciandolo, ma anche perché farà parte della prossima campagna, no? Dico, per le elezioni, ma deve essere anche chiaro quello che noi dovremo e sapremo poi trasmettere ai nostri cittadini in questo senso. Quindi io ho avuto personalmente, ma tutti noi, una serie di incontri, di relazioni, di contatti, non a livello personale, perché cerchiamo di portarli avanti nel modo più trasparente possibile, cercando di coinvolgere di volta in volta le persone che ci sono, sentendoci, parlandone. E abbiamo un elemento importante che mi chiedono tutti e sul quale anch'io mi chiedo sempre, eccetera, e è quello: se veramente siamo di fronte a una nuova stagione, no? di questa grande apertura. Io veramente credo di sì. Io ho avuto anche oggi un incontro, abbiamo avuto un incontro interlocutorio con alcune esponenti del Partito Democratico, no? Parlando liberamente è venuta fuori una grande apertura, no? Di questo partito su questo, una grande apertura che tende a includere tutti, no? Tutte le forze, tutte le persone che sono d'accordo a un progetto, no? Riconoscendo anche questa assemblea, no? Il ruolo di questa assemblea anche a livello quasi paritetico, nel senso che infatti dopo dirò una delle prime proposte che dovremo alla fine della, discutere è quella della definizione appunto di quella carta dei valori, del regolamento eccetera, che dovrebbe essere discussa nei primissimi giorni. Sui giornali avete letto che c'è la possibilità, l'ipotesi, no? Che il 20 di novembre o in quel periodo si possano fare le primarie, no? E pertanto bisogna, se quello è un periodo, è una data che penso che sia tutta da discutere, da concordare, ma noi avevamo parlato anche noi mese di novembre eccetera, così vuol dire che dopo ci sono tutti dei tempi tecnici, no, anche per questo, no? Per non so quando terminano le iscrizioni per le candidature eccetera, tutto il resto. La prima cosa da parlare è il regolamento, è questa carta dei valori, è una serie di ecco. Questo è una delle cose che dovremo anche discutere questa sera, perché penso che poi il PD sentirà, no, si è fatto promotore, Paco, Sel, Rifondazione e altri, no, tutte le aree, tutte le forze che si riconoscono in questo percorso per trovarci e per discutere, no, di questa cosa qui, no? Ecco, quindi l'elemento che io volevo, dopo questo mese e mezzo di pausa, no, estiva, è questo, no? Di adesso, no, di concentrare i nostri discorsi su alcune proposte operative concrete. Noi ne faremo qualcuna questa sera, no? Tramite dopo gli interventi che verranno fatti anche più tardi, no? Di alcune iniziative pubbliche, no? Da fare anche subito, no? E quindi aprirei, no, il dibattito, no, su questi elementi che ho dato. Va bene, Danilo, io però ti chiederei un ordine del giorno un po' più preciso, nel senso che i tempi stringono, hai fatto girare una mail, cioè un ordine del giorno abbastanza preciso, io lo rispetterei, sì, questo, sì, ordine del giorno, e almeno è mia intenzione farlo rispettare, nel senso che i lavori di questa assemblea sono molto semplici, sono molto anglosassoni. Diamo a ciascuno, a tutti quelli che vogliono partecipare, e io ci terrei, poiché ho invitato diverse persone, le inviterò a parlare, a esprimere il loro pensiero su che cosa? In termini generali, su quello che si può fare, si dovrebbe fare, si attende dagli altri che facciano e che vuole fare anche lui. Però ecco, quindi abbiamo dei minuti precisi e dobbiamo cercare di essere un po' più concreti delle altre volte per arrivare. Quindi all'ordine del giorno a me sembrava ci fossero delle proposte concrete di step per arrivare a queste primarie, eventuali proposte di candidature, varie ed eventuali. Questo è l'ordine del giorno, se è chiaro. Quindi, iniziative le più varie, le più svariate per costruire la campagna elettorale amministrativa. Primo punto all'ordine del giorno, e quindi per costruire il programma, ovviamente. Due, proposte di candidature, tre, varie ed eventuali, nel senso che... io ci terrei a dirvi questa, a sottolinearvi... Sì, la carta dei valori. Questa, certo, la carta dei valori. Questa assemblea rimarrà un, diciamo così, un luogo neutrale, cioè un luogo di garanzia. Perché qual è il dato politico fondamentale da capire bene? È che le primarie non erano scontate, e secondo me non vanno ancora ritenute scontate. E poi ci sono primarie e primarie, e poi ci sono come forze politiche che si dichiarano fuori dalle primarie ufficialmente. E non dobbiamo dimenticarci però che le primarie che ha concepito il Partito Democratico, di cui dobbiamo, come dire, rendergli giustizia in questa grande architettura amministrativa che è stata messa in piedi, che è sostanzialmente molto farraginosa e oligarchica, almeno le primarie costituiscono uno sprazzetto di democrazia e di partecipazione, e questa assemblea lo testimonia. Quindi ci sono anche le primarie sono anche aperte, non sono anche aperte, sono aperte a tutti i cittadini. Quindi, come succede negli Stati Uniti, alle primarie vanno a votare anche quelli dello schieramento opposto. C'è una piccola barriera che costituisce dal finanziamento, da qualcosa, che può costituire per alcuni una barriera insormontabile, ma che di fatto è una piccola barriera. Quindi il discorso che matura in questa sede è, rimane, rimarrà, nonostante le candidature che verranno fatte, nonostante le proposte di lista che verranno fatte o non verranno fatte, nonostante parteciperanno e partecipano, vedo, movimenti che ufficialmente non si schierano per pro o contro le primarie, ne fanno un altro percorso, comunque un'assemblea neutrale che serve a garantire che a Como nasca un processo politico di carattere, come dire, che ha la caratteristica della trasparenza. E già questo è un dato, diciamo così, politico molto importante, cioè la trasparenza, perché l'opacità contraddistingue il modo di operare sia del centrodestra sia del sistema politico, probabilmente nel suo complesso, che fin qua conosciamo. Quindi apriamo le danze, io mi faccio garante della possibilità di ciascuno di parlare, e poi probabilmente troveremo anche un altro presidente che faccia le mie leggi, perché mi sono anche scocciato. Bene, prego. Dunque, io mi fa piacere ricordare che è la terza assemblea. Ci sono persone che già hanno partecipato, altre che mai hanno partecipato. C'è, vedo, Molteni, che rappresenta una lista che sta andando per conto suo e che mi piacerebbe sapere conoscere la sua analisi e proporre i suoi pensieri all'Assemblea. Vedo che ci sono ho invitato persone che sono venute, ad esempio vedo Claudio Pozzetti, che ha una grande esperienza per quanto riguarda una realtà sui generis, qual è quella comasca di fronte agli Erma, che è ineludibile affrontare. Vedo imprenditori, vedo Bruno Magatti, che è la prima volta che partecipa, vedo tante altre persone. Invito tutti coloro, vedo il sindaco Simone, vedo l'architetto Castelli, vedo tanti altri, insomma, sono invitati a dire la loro, contingentati. Prego. Intanto, scusa Luca, non è un intervento, una precisazione, cioè hai detto poc'anzi che può partecipare chiunque, presumo, a due punti, aperte le virgolette, che sottoscriva la carta dei valori comune al centro-sinistra. No, ma penso che votare le primarie possano tutti i cittadini. Votare, d'accordo. No, condividendo. È una grossa differenza, nel senso che mi sembra di aver capito, almeno io ho votato le primarie precedenti senza essere iscritto, mai stato iscritto da alcun partito, e nessuno quando sono andato alle primarie mi ha chiesto di tirar fuori la tessera di un partito. Io potevo essere di qualsiasi partito. Questo è un dato di fatto che forse sfugge più, ma è così, okay. Io quando sono andato a votare le primarie del PD nessuno mi ha chiesto nulla se non di dare 2 euro, e questo mi sembra hanno copiato da come fanno gli americani, Mi sfugge il particolare che negli Stati Uniti d'America, con la prima volta che è accaduto, è stato il caso Puglia, vanno a votare tutti per le primarie, a votare. Un altro discorso sono i candidati, cioè come si formula la coalizione e come si formano i candidati. Questo è, diciamo così, l'ambaradan delle primarie, che non ho inventato io, diciamo così, ha inventato il PD, quindi se c'è qualcuno al PD poi se lo spiegherà meglio, ma da come l'ho capito e vissuto fino adesso io, si svolge esattamente così. Qua c'è Iantorno che potrebbe spiegarci qualcosa, magari possiamo rompere il ghiaccio invitando Iantorno, che è un noto esponente del PD, di spiegarci come funzionano queste primarie, come si svolgeranno nel concreto. Ci puoi confermare come dicevo io, no? Prego, cioè, presentati, che sono Marcello Iantorno, credo che ci conosciamo quasi con tutti, sono consigliere comunale, sono partito democratico. Condivido con quello che tu hai detto prima, cioè dire quando sono fatte le primarie a Como, in effetti diciamo coloro i quali sono venuti per esercitare la possibilità di votare hanno presentato il certificato elettorale e poi hanno versato questo contributo economico che era assolutamente minimo, 2 euro minimo. Per cui non vi era nessuna richiesta di adesione né a un progetto, né a un programma, né a un partito. Ora, che poi le primarie debbano nel futuro essere o meno regolamentate, perché è evidente che questo tipo di approccio potrebbe creare dei problemi sull'autenticità anche delle persone che si accingono è un'altra questione che sicuramente credo che non interessi ora questa fase, perché ci porterebbe una problematica lunga e quindi probabilmente se ne parlerebbe fra 5 anni. Allora io credo che a questo punto si possa, però questa è una mia ovviamente posizione personale, io non esprimo quello del Partito Democratico di Conti in questa sede, quindi io in quello che tu dicevi lo condivido e ti ringrazio per aver dato questa possibilità. Prego. Grazie. Gianfranco, presente. Sì, mi chiamo Gianfranco Giulio. Per una precisazione su chi partecipa alle primarie, io credo che debbano essere elettori del luogo e debbano anche dichiarare di essere elettori di quello schieramento, cioè, altrimenti non lo so, questo io dico questo è la mia opinione, ovviamente, che potrebbe essere tranquillamente considerata, cioè io non credo che per scegliere il candidato sindaco della città di Como un elettore di Lecco, no, deve essere del partito, del certificato elettorale, io per esempio essendo un residente a Plevio non penso che debba venire a Como a votare per me riguarderei bene, ma poi c'è l'altra condizione che credo sia altrettanto importante. A parte il contributo, certo, bisognerà dare, che ne so io, X euro come contributo che potrebbe essere, ma è anche dichiarare di essere un elettore di quello schieramento. Poi certo uno potrebbe dire io sono un elettore di quello schieramento con il segreto dell'urna, vota per il Popolo delle Libertà. Ognuno può fare quello che vuole, però tu, come dire, certifichi di essere un elettore di quello schieramento, perché di non essere un elettore, anche questo credo sia una condizione indispensabile, perché altrimenti. Voglio dire, un gruppo di supporter di qualcun altro decide di partecipare alle primarie del centro-sinistra votando, cioè, ecco, questi sono, secondo me sono... Modello americano è così. Il governo americano può fare quello che vuole, tanto che a Como si può fare quello che vuole. No, ti dicevo il modello americano perché l'ha importato dal PD. Quello che dico io può essere, possono essere delle banalità, però credo che siano due questioni importanti. E il contributo da versare, cioè è chiaro che poi la terza questione, tu partecipi alle, insomma, versi 5 euro, versi 3, cioè non lo so quello che sarà, che serve come contributo, questo è l'ultima questione, però le due cose precedenti credo che siano importanti, soprattutto la seconda. Intanto siamo sulle domande tecniche sull'argomento con una curiosità. Se per quanto riguarda invece la selezione dei candidati, quale sarà il meccanismo, se già se ne discute? Nel senso, al di là dei partiti o delle liste civiche che si faranno promotrici o promotori delle primarie, voglio capire se ci sarà quindi la libertà da parte di persone che si conosceranno con un certo programma di partecipare in qualità di candidati con una raccolta firme, ad esempio. Quindi se qualcuno ha una memoria storica di quello successo nel 2007, volevo capire un attimo anche se questo meccanismo era previsto e se già se ne sta parlando. Allora, per quanto riguarda l'aspetto proprio organizzativo, non tanto per il regolamento, che è quello che stanno... Probabilmente, non so, potrebbe aiutarci Magatti, che mi sembra che loro hanno già studiato una serie di regolamenti che verranno discussi nei prossimi giorni, penso, no? Diciamo, poi, comunque, dopo, se Bruno ritiene, no? Poi illustrarcelo meglio lui di altri, no? Che l'hanno affrontato già questa tematica. Ma certamente la regola sarà che una volta che uno raccoglie un tot numero di candidati che si riconosce, questo sì, il candidato nella Carta dei Valori e in tutte gli altri documenti che sono previsti, no? Uno può presentarsi alle primarie, altrimenti non ha... Noi avendo osservato, studiato un po' di regolamenti applicati alla comunità, abbiamo visto che sono due questioni importantissime. Innanzitutto gli extracomunitari. In alcuni casi è consentito il voto a extracomunitari residenti, questa è una scelta che dobbiamo fare. La seconda è quella di abbassare l'età, per favorire la partecipazione dai 16 anni, ovviamente fuori dalle riflessioni fatte prima. Credo che questi due elementi siano elementi sui quali riflettere insieme e devono essere decisi. E noi, io personalmente, credo che debba essere favorito un avvicinamento ai temi comunque della città, del territorio, da parte di persone che vivono i problemi ma non ne sono protagonisti, anche nell'idea tra virgolette della semina, perché quello che è successo in questi anni, sta succedendo in questi anni, è che si è rotta la catena di trasmissione delle conoscenze e delle competenze. Una delle cose che io sento in maniera più forte è il fatto che, avendo fatto il consigliere comunale per un po' di anni all'opposizione, ho macinato una serie di questioni, di conoscenze e il desiderio grande di poterne condividere la conoscenza reale. Anche leggendo i dibattiti che appaiono su internet, sulla stampa, c'è una distanza formidabile tra il problema e la sua narrazione e la sua, come dire, discussione da parte della collettività. E questo è un problema reale che credo che un gruppo di persone come queste dovrebbe affrontare con grande serietà. Cioè, credo che il problema non sia in questo momento fondamentalmente trovare la persona giusta, ma sia quello di trovare i meccanismi giusti che consentano di condividere la conoscenza e la competenza che alcuni, per dato di necessità o di storia, hanno elaborato e sono in grado di mettere a disposizione. Credo che questo sia il problema. L'entusiasmo credo che sia un elemento fondamentale, ma non è sufficiente. Mi fermo qui per adesso. Scusami, sul problema tecnico, quello che poneva Gianfranco Giudice, l'elettore, da quello che avete studiato, l'elettore delle primarie deve dichiarare l'appartenenza allo schieramento. Noi la leggiamo come l'hai letta tu, cioè in realtà è il candidato che sottoscrive una carta di valori, cioè la carta di valori è un filtro evidentemente per le candidature, è l'unico meccanismo, anche se in realtà è un meccanismo, come dire, un po' ingenuo, perché ovviamente chiunque alla fine potrebbe dire: va, io questa roba la sottoscrivo, ho il mio gruppo di amici che mi sostiene e sto dentro questa partita. È la storia e sono le relazioni che consentono poi efficacemente di lavorare su queste cose, ma la carta di valori è proposta ai candidati. Nulla invece agli elettori, ma perché si dà sostanzialmente per scontato che una persona che spende, come dire, il tempo a capire, approfondire, vada, come dire, con un'intenzione. Questo però non esclude, anche secondo me non esclude, che qualcuno possa. Però attenzione, il meccanismo delle primarie può anche essere un meccanismo di, come dire, di avvicinamento di persone che oggi sono in realtà lontane, distanti o addirittura dall'altra parte. Quindi il fatto di porre dentro il voto delle primarie una, come dire, una demarcazione molto netta rispetto a chi c'è e chi non c'è è un limite oggettivo rispetto al processo che noi vorremmo attivare. Il processo che vogliamo attivare non credo che debba essere inclusivo solo rispetto a chi c'è già, ma credo che se non è inclusivo anche rispetto ad altri che ancora non ci sono e che non vogliono buona prospettiva, sia, come dire, il solito percorso per fare l'opposizione. Credo che siamo qui per fare altro. Va bene. Ma io sullo stesso tema cito il programma per Pisapia, che qualcuno l'ha posto in rete nel gruppo Facebook, non mi ricordo più. Allora, punto A, Massimo Rossi. Ecco, possono partecipare alle primarie del 2010 in qualità di elettori cittadini che abbiano prima piena titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni comunali di Milano, i quali sottoscrivano le linee guida del centro-sinistra per Milano e devolvano un contributo di 2 euro, o immigrati residenti nel territorio. Ha fatto Milano. Questo è lo statuto regolamento delle primarie di Milano. No, non è che firmi, però cioè, nel momento in cui voti, lo si mette, che so, nei bandi, nei manifesti che faremo, metterlo, chi vota si attiene a non è che questo che ha dovuto dichiarare o firmare. Prego, Salvatore, presentati. Mi chiamo Salvatore Amora e adesso vorrei giusto, perché la partita è troppo, respira troppo un'area di, come posso dire, di persone per bene adesso, per buttare via questo tempo in questa discussione sul tecnicismo delle primarie e così via. Io al terzo incontro vorrei anche provare a dire qualcosa così di sostanziale, perché credo che tanti sono aspetti. Intanto il quadro: questa città è stata ed è mal governata, profondamente mal governata, in tutte le sue parti. E questo disagio, io naturalmente sono uno di quelli meno conoscitore, meno addento, come sicuramente tantissimi di voi, che hanno un quadro anche più storico e più concreto, più che si è costruito durante gli anni. Io vengo da fuori, vivo a Como da poco tempo, da un anno e mezzo. Questa città è drammaticamente mal governata nei servizi sociali, nei servizi educativi, in quelle che sono le questioni anche proprio più semplici della quotidianità. E questo è drammatico. Lo si vive, questo disagio delle persone ormai lo si vive in maniera lampante e tutti si aspettano che finalmente si possa voltare pagina. Io credo che in questa sala, cioè ognuno di voi deve mettere dentro questo pezzo di responsabilità. Noi oggi abbiamo una grandissima responsabilità, siamo qui al terzo incontro, c'è una sala strapiena in un tantan spontaneo. Dobbiamo dare un qualcosa, veramente un segnale veramente nuovo alle tante persone che si aspettano di questa città volti pagina. Perché il quadro storico è fondamentale? Perché nel frattempo che questa città si aspetta che volta pagina, questo paese si aspetta che volta pagina. Qua, ancora nelle ultime ore, in barba alla discussione parlamentare, alla grande coesione nazionale che ci si aspettava, e soprattutto mentre la crisi per 3 anni è stata... vi ricordate, prima si ridicolizzava quelle che venivano definite le Cassandre, poi giochiamo al game over e così via. Nel frattempo le famiglie si sono impoverite, il ceto medio è completamente in crisi, le soluzioni non ci sono, i comuni, oggi sono stati 800 sindaci in piazza, ma non perché la situazione comune è totalmente drammatica, servizi a domanda individuale, blocco degli investimenti per il patto di stabilità, cioè siamo in un quadro veramente drammatico e noi credo che da qui, da questa sera, visto che siamo al terzo incontro, dobbiamo lanciare un segnale a questa città che deve essere un segnale di idee, deve essere un segnale di proposte. Poi verranno gli uomini, poi verranno i candidati, poi verranno i protagonismi. Quello credo che non è un problema. In questa sala, fuori da questa sala, tra chi fa politica, tra chi si avvicina alla politica, credo che abbiamo a disposizione tantissime risorse che possono cambiare la pagina di questo libro che ormai vuol dire è arrivato alla fine. Secondo, per cui abbiamo una grandissima responsabilità, non buttiamo via il tempo è prezioso in questo momento. Se dalle notizie di stampa il 20 novembre probabilmente ci sarà la tappa delle primarie, ma è ovvio che chi mastica politica come il PD, come quelli che fanno parte dei partiti, come Pago, come SEL, cercano di dare anche un po' un cronoprogramma, perché poi i tempi della politica sono i tempi della politica. 20 novembre le primarie, pausa natalizia, alla ripresa a gennaio si entra in vivo la campagna elettorale, perché poi probabilmente la terza settimana di maggio o alla prima di giugno si andrà a votare. Questo un po' credo che sia il quadro e il cronoprogramma che ci aspetta. Secondo, negli ultimi incontri noi abbiamo detto... dobbiamo cominciare a elaborare delle idee, dobbiamo cominciare a recuperare una progettualità che in questa città si è costruita in questi anni attraverso i gruppi spontanei, attraverso l'elaborazione dei gruppi politici in consiglio comunale. Gli esponenti dell'opposizione, credo, e da quello che leggo, abbiano fatto comunque un lavoro prezioso in un luogo che è il consiglio comunale, che è un luogo ormai svuotato di qualunque tipo di competenza, perché talvolta si dicono ma l'opposizione è così un po' effimera, leggera, non si sa, o forse non si conosce, lo si diceva prima in maniera molto puntuale, un conto è la narrazione, un conto poi è la praticità del sistema. Purtroppo il Consiglio Comunale è una più competenza, la Giunta o addirittura in particolar modo il Sindaco e la parte dirigenziale hanno una grossa importanza all'interno dell'amministrazione e soprattutto per quella di Como, anche per le scelte che sono state fatte, che sono che hanno oltrepassato l'elemento del danno erariale, sulla questione delle paratie, su altro. Qui ci sono delle scelte strategiche che sono state fatte in termini di investimenti, in termini di contrazione di mutui, in termini di scelte che mineranno il quadro economico e finanziario di questo comune, al di là di qualche fuoco d'artificio di Sergio Gaddi o di qualche altro personaggio così effimero che si gioca la sua partita personale. Per cui abbiamo, le volte precedenti abbiamo detto, cominciamo a ragionare di questa città, mettiamo insieme queste competenze, mettiamo insieme queste intelligenze, mettiamo insieme questo lavoro che è stato fatto, e questo può essere un buon punto di partenza, e allarghiamolo, contaminiamoci a quello che è successo fuori da qua, a un pezzo delle cose interessanti che sono riusciti a elaborare a Milano, anche se adesso si sta tentando un po' di con la vicenda Penati di creare questo mischiume, ma Milano ha dato un grande segnale, perché in alternativa a Pisa Pia c'era un personaggio come Boeri, che era un personaggio della società civile, del mondo università, c'è l'esperienza di De Magistris, c'è stata l'esperienza di referendum, c'è un flusso che noi non possiamo far fermare e non possiamo non far arrivare in questa tappa, per cui ci sono delle proposte di discussione, l'Arci la scorsa settimana le ha lanciate altre, sono sicure che ne verranno altre ancora, approfittiamo di questi momenti per riempire i luoghi dentro e fuori, cioè nelle piazze, coinvolgendo le persone, andando nei quartieri, cioè facendo capire che a Como si può costruire una proposta alternativa. Ultimo, e non mi sottraggo alla questione dei nomi, si sono fatti dei nomi, ci si aspetta che si facciano dei nomi, la questione dei nomi naturalmente è centrale, perché? Non perché siamo tutti caduti stupidamente in una questione di leadership e di protagonismo, perché con l'elezione diretta del sindaco, il sindaco assume un ruolo di primaria importanza, un punto di riferimento, per cui è chiaro che il nome, il candidato, il profilo del candidato come elemento di etica, di garanzia, di trasparenza, di competenza è un elemento che contraddistingue quello che sarà questo percorso. Anche su questo abbiamo detto. Questa hai 7 minuti però, io ti do 30 secondi e poi do la parola. Perché ti ripeto una cosa, Salvatore, è la terza assemblea e siamo sempre al punto di prima. Sì, sì, sì, no, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo quagliare. Sì, sì, allora dobbiamo essere. No, io devo dirti la verità, sono abbastanza rigido, mi conosci. Sì, sì, sì, no, ma non si capisce, non si completa un ragionamento. Stavo semplicemente dicendo che sui nomi c'è un percorso che si può costruire, anche qui abbiamo detto, perché non pensiamo a quello che è nelle primarie, che è sicuramente un contenitore interessante, prima si disquisiva in maniera utile anche del tecnicismo, ma diciamo anche qual è che può essere il metodo che può cambiare qua, c'è la partecipazione dal basso, c'è la possibilità di aprire spazi, di costruire un percorso di competenze, di intelligenze, perché poi andare a amministrare è una questione complessa, ci vuole il tempo, ci vuole la preparazione, e credo che questo veramente possa fare in modo che, se stasera siamo così in tanti, domani dobbiamo essere ancora più in tanti che raccontano che questo percorso è un percorso credibile. Ti ringrazio. Claudio Catani, prego, presentati. Io non credo nelle parole spontaneistiche, non sono mai creduto e continuo a non credere. È la riprova che è la terza volta che ci si ritrova, ma siamo per quando percepisco io qualche campagna elettorale buffata, in un vacuo generale. Anche perché ha ragione Michelini nel proporre un criterio generale, no? Anche perché in una nostra lista potrebbe venire uno che, poniamo, alle politiche vota Berlusconi ma gli sta sulle palle Bruno. E quindi per amministrare la città di Como può essere d'accordo con noi. Non è che gli chiediamo una fede ideologica o se ha letto i Grundrisse e i Marx, no? Gli chiediamo semplicemente se è d'accordo su un progetto di città. Ma chi lo fa il progetto di città? Un'assemblea? Siamo mica Giacobini a prima fase. Devono esserci, e questo secondo me è centrale, la scelta di candidati, perché ogni candidato ha una sua personalità, esprime idee, a modo di farsi conoscere, di avere il coraggio delle proprie idee, no? Perché in questa sala non la pensiamo ovviamente nello stesso modo neanche sui problemi amministrativi, urbanistici, che cosa deve essere la città, se la polis di Atene o se invece un'area metropolitana, sono vari. E finché non discutiamo di questi temi, cosa servono le primarie? Io voglio scegliermi un candidato che la pensa abbastanza vicino a me. No, personalmente io so già chi potrebbe essere il mio personale candidato, se io troppo vecchio per poter partecipare direttamente, ma almeno indirettamente ho ancora l'età, no? E questo è un elemento importante, perché accanto al mio candidato io voglio creare uno staff che gli consenta di essere vincente, altrimenti non butto via il mio tempo, tante cose da leggere. Quindi credo che le candidature sono scelte e criteri, perché ognuno di quelli che saranno candidato dovrà, negli iscritti, nel parlare, soprattutto negli iscritti, nel colloquiare, nel raccogliere le firme che lo portino, spero almeno 200, ad essere candidato sindaco, no, perché altrimenti succede che si fanno delle liste in cui alcuni pigliano 7 preferenze, 3, 2, 1, Quindi se si vuole essere vincenti bisogna scegliere le candidature migliori che hanno un suffragio, che sono sostenute, e in modo che chi sostiene un candidato sappia da domani che idee ha, in modo da collaborare con lui e allargare il cerchio. Se no cosa servono le primarie? Se abbiamo 7-8 candidati, abbiamo 7-8 raggruppamenti, magari concorrenziali, no? Ma tu non senti in prospettiva, vinca il migliore, no? Ma nel frattempo per sapere chi vinca il migliore voglio sapere chi è il migliore, voglio sapere le idee di tutti i candidati. Non un discorso generico, no? O una chiarezza su cosa ha fatto o non ha fatto Bruni, no? Perché lo sappiamo benissimo, no? Leggiamo i giornali, vediamo, viviamo la città, caschiamo nelle buche. Quindi io, secondo me, se vogliamo essere concreti, bisogna cominciare a creare il criterio selettivo. Il candidato deve avere, un modesto avviso, 200 persone che lo sottoscrivono la sua candidatura. E allora è qualcuno. Se uno non riesce a raccogliere, no, dei suffragi ex ante, non li raggiungerà mai gli ex post, se si vuole usare le primarie come strumento vincente. Grazie Claudio. C'è, chi sei tu che non so come Valerio. Valerio Presidente, no, volevo dire solo tre cose. La prima è sulla carta dei valori. Secondo me deve essere estremamente sintetica e generica e non deve contenere alcun tipo di punto programmatico. Deve essere una carta dei valori che dice sostanzialmente tre cose, che sono il rispetto dei valori della Costituzione, la sua resistenza da parte dei candidati, che è la base di tutta la politica italiana, il fatto che chi perde sosterrà chi vince, che è un'altra cosa secondo me che può essere dirimente, secondo me va messa, ma nella Costituzione l'antirazzismo, cioè non va aggiunto, la Costituzione è già perfetta da quel punto di vista. E poi al massimo ci si può porre il problema che poneva il compagno parlato prima di me, cioè se far avere un tot di firme i candidati o no. Poi questo che è oltre la carta di valore, che io non starei a scrivere, ma che è di buon senso, è che secondo me una città come Como, più di 2-3 candidati, di 3-4 candidati, non ha senso. Cioè se iniziamo a avere tanti nomi adesso va anche bene, però poi qualcuno si parli, decida, magari fa un passo indietro qualcuno per sostenere qualcun altro e si arriva ad avere delle aree omogenee, cioè chi è della stessa area politica non si faccia la guerra tra di loro, ma che sì. Ma questo non si può scrivere una carta di valori, questo secondo me è un buon senso e lo dico in generale. Le aree politiche sono 2-3, quindi i candidati devono essere 2-3. Seconda cosa che volevo dire, che prima, durante e dopo, ma soprattutto dopo che si sa chi sono questi maledetti candidati, io inviterei, almeno quello che sosterrei io, dovrei fare così, ma inviterei tutti quanti a avere degli spazi sia di assemblee tecniche che di assemblee plenarie, cioè di avere dei momenti in cui tutte le competenze, al di là di cosa erano le liste, partiti di riferimento 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, che sostengono questo candidato, si ritrovano insieme a società civile, a persone che lavorano nel sociale, eccetera, eccetera, in base a quelle che sono le competenze del comune, quindi ci deve essere un gruppo che si occupa di asili, un gruppo che si occupa di strada, un gruppo che si occupa di spazzatura, eccetera, eccetera, e so che molti partiti, liste e società civile già hanno queste competenze anche a Como, si ritrovino magari chiedendo anche degli esperti esterni e formulino il programma di questo candidato, che poi viene discusso in plenarie con tutti, anche non i tecnici ovviamente, non quelli che sono appassionati di quell'argomento, perché chiaramente io magari mi appassiono di più alla situazione delle scuole, ma di rifiuti non so nulla, non vado alla riunione dei rifiuti, però poi voglio sapere cosa si è discusso sui rifiuti, e se arrivi poi a un programma che venga fatto in maniera orizzontale, cioè che coinvolga nella fare il programma più gente possibile. Terza e ultima cosa, io credo che questo modello, che è un modello ed è importante proprio per questo, possa portare una campagna elettorale sia delle primarie sia soprattutto delle secondarie orizzontali. Cioè se tu hai un programma orizzontale su cui basi le primarie, poi puoi fare una campagna elettorale che sia fatta coinvolgendo le persone il più possibile, non avendo un comitato centrale che dà le parole d'ordine, ma cercando di gestire in modo che tutti siano militanti alla pari e cercano di fare campagna elettorale anche al di fuori di ciò che il comitato centrale decide come manifesti, come propaganda, come ufficiale, come volantini, quindi avere gente che si occupi poi di un gruppo di usare la rete, gente che si occupi di fare propaganda porta a porta nei quartieri, cioè che si cerchi di mobilitare le persone da subito, per le primarie e poi per le secondarie, perché l'unico modo per vincere, secondo me, a Como, visti anche i rapporti di forza che ci sono stati in questa città da un ventennio, è la mobilitazione, la partecipazione popolare. Cioè, se noi riusciamo a essere in tanti a fare campagna elettorale, vinciamo. E quindi quello che è importante è cercare di far uscire il programma dalle assemblee nel territorio. Sono stato anche troppo lungo, forse. No, no, sei stato perfettamente in tempo. C'è qualcun altro che ha la parola? Tu dopo mi scrivo io e lascio. Prego. Io volevo dire che... E presentato, mi chiamo Tonina. Volevo dire che non mi preoccuperei tanto con il fatto Cattaneo del fatto che siamo la terza assemblea e non abbiamo guardato, razionalizzato un sacco di cose, perché è da apprezzare tanto lo sforzo che si fa di preparare delle elezioni aggregando tutti, il più possibile, diciamo, attuando democrazia. Quindi non siamo abituati, ma neanche nei partiti non si fa più a fare grandi discussioni politiche, pur essendo molte persone di noi interessate, diciamo, alla politica, a quello che succede. Per cui direi che ci vuole un po' di pazienza, però è una cosa che va fatta, che va molto apprezzata, che è importantissima. Ecco, l'altra cosa è che non avrei neanche paura del fatto che i candidati siano più di due o di tre, perché mi sembrerebbe che avere il massimo della partecipazione dei cittadini, che può anche arrivare proprio perché c'è quel candidato in TV che la gente conosce, eccetera, sia più importante che definire. Poi magari il numero si ridurrà da solo a un certo punto, però accetterei anche che ci fossero più. Poi volevo dire che non ho capito bene questa carta dei valori, no? Perché come dicevi tu, c'è già la Costituzione, abbiamo una serie di riferimenti che dicono già tutto. Io a caso avevo pensato così erano per me i valori di un gruppo che si mette, vuole partecipare alla vita di una città. Io ho scritto, per esempio, per me è un valore la democrazia partecipata, bisogna dirlo. Avere un comune virtuoso che farà di tutto per avere più energia pulita possibile. Essere un'amministrazione che rispetta l'ambiente, che ristrutturi anziché costruire, essere attento alla salute dei cittadini, l'aria, l'acqua, eccetera, c'è un po' dentro tutto, diciamo, anche il programma. Però io, per me la carta dei valori è questa, come vogliamo vivere e che cosa ci serve per vivere bene la città. Ecco, un'altra cosa è che adesso non lo dico, la scia è quella, ecco, di dire quali sono i nostri valori per vivere una città civile, che dia quello che di cui hanno diritti i cittadini, che respiri meglio, perché se diciamo che vogliamo che la salute dei cittadini è importante, è come dire cosa facciamo per avere meno smog, e c'è dietro un programma, voglio dire, cosa facciamo per la mobilità, eccetera, eccetera. Poi ho finito, siccome qualcuno ha ricordato quello che si sta facendo a Roma, che fa un po'. Una cosa volevo dire, per esempio questo aumento dell'età pensionabile, che impatto ha sulla vita di una città? Quando le persone andranno a lavorare fino a 67 anni, dove staranno i figli, i bambini, eccetera? Volevo dire che ci sono delle cose anche che è da pensare, come vogliamo vivere. Dove vogliamo vivere la città, vogliamo avere la famiglia, dove vogliamo mettere i figli, o gli daremo gli happy hour soltanto come alternativa agli spazi a questo e altro, cioè non so se mi sono spiegato. Ci sono delle cose che dicono a Roma, però alla fine hanno un impatto sulla vita dei cittadini e delle famiglie, perché se tutti corrono la mattina fino a 67 anni a lavorare, magari anche 70, perché due di loro fra quattro fa sempre che i giovani stanno a casa a lavorare, ha un impatto proprio su cui bisogna anche pensarci. Grazie. Allora prendo la parola io, mi permetto, visto che la serata mi sembra un po' floscia, di rassicurarla e di rompere gli indugi. Dopodiché io passo la presidenza a Marta, che mi piace, mi arrogo questo privilegio, se mi consentite, visto che primo è donna, secondo fa parte di giù la giunta che avuto l'intuizione, sulla giunta, un moto di cittadini spontanei che ha avuto un'intuizione molto semplice e che non in tanti hanno capito come. Che il muro doveva costituire il momento perché la giunta se ne andasse. Quindi, poiché loro hanno avuto questa grande intuizione che io condivido, tra l'altro io non faccio parte di loro, mi propongo, se siete d'accordo, che la Presidenza l'assuma lei e io mi prendo i miei 4 minuti. Mi prendo i miei 4 minuti, ce l'hai tutto, questo se ti serve. No. Per dirvi questo, dunque, ahimè, io rompo gli indugi e quindi faccio una precandidatura, cioè la mia. Io, diciamo così, mi propongo, ma non tanto come candidato, ma preferirei chiamarla una precandidatura. Perché? Perché mi piacerebbe tentare di, c'è poco da fare, in questo momento ci vuole un pivot che cerchi di far convogliare le forze in un punto, che non ho deciso io e non abbiamo deciso noi quello che è la candidatura. Ahimè sono le regole del gioco, che sono tremende queste regole del gioco, perché il sindaco sceriffo non è vero che è stata la panacea dei nostri problemi amministrativi, perché invece ha ulteriormente impoverito la vita democratica della città. Date queste regole, dobbiamo giocare con queste regole. E quindi io mi propongo. Quindi non so se adesso è il posto, il luogo, se mi date 3 minuti per spiegare il motivo per cui mi propongo e poi deciderete voi. Perché l'Assemblea, comunque, a mio giudizio, deve, e lo sanno coloro i quali hanno contribuito a organizzarla con me, deve rimanere il luogo non primarie vere per Michelini o primarie vere per Magatti o primarie vere per Simone, ma deve rimanere un luogo di garanzia, perché altrimenti questo consesso perde assolutamente di significato. In due parole, qual è la mia proposta? Io non mi rivolgo a uno schieramento politico, non mi rivolgo ad aree politiche, perché schieramenti politici attuali, aree politiche attuali, partiti attuali, ahimè stanno mostrando la corda a tutti. Io vorrei lavorare per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. È una riflessione che è maturata in questo senso. Primo, nel periodo di tempo in cui a Como sono nate, fiorite, quante liste civiche? Parecchie. Ce n'è una nobilissima, di grande competenza come Paco. Ce ne sono state altre, io ho collaborato con Giovanni Moretti alla sua campagna elettorale. Mentre a Como fiorivano tutte queste belle liste civiche, c'era un'altra lista civica che è nata in un paesino sperduto qua vicino, che è diventata Lega e che adesso è al governo. Quindi è ora di smetterla di fare discorsi prettamente municipali. Le liste civiche hanno un senso, ma fino a un certo punto si devono giocare le loro carte, ma queste carte possiamo fargliele giocare insieme con un progetto e un progetto più ampio. Anche perché, e qua è la seconda parte del mio ragionamento, Como è un'isola felice, perché ci sono tanti frontalieri, perché è una nazione di frontiera dove accadono cose particolari che in altre nazioni non accadono, è una città molto ricca, è una città ancora industriale. Como è la città più manifatturiera d'Italia insieme a Prato e insieme a Varese. Bene, allora dobbiamo lavorare su questo tessuto per farlo crescere, per dargli una prospettiva a tutto campo. Quindi io lavorerei in questo senso. Purtroppo le primarie ci tocca farle. Io provo a proporvi di seguirmi in questo percorso. Questa città felice pensa che i problemi che possono essere affrontati sono di carattere municipale. Ma badate bene, la crisi finanziaria, nonostante tutti ci dicano che è passata, non è passata. Perché pensate solo che il debito pubblico accumulato dagli stati e che adesso fa tremare i mercati è una frazione infinitesimale del debito accumulato dal sistema bancario. Quindi Como, come dire, viaggia non solo in un'isola felice, ma viaggia in Italia e in Europa. E francamente essere governati o da programmi passati, politiche economiche che potremmo definire proviane, quindi liberalizzazioni, privatizzazioni, eccetera, piuttosto che dal municipalismo, io temo si rivelerà assolutamente impossibile e fallimentare. Quindi io cambio ruolo e tutti coloro i quali vogliono darmi una mano, non per la mia candidatura, perché poi io non credo di essere la persona adatta, né voglio come dire, fare di questa una mia ragione di vita, però voglio dare assolutamente un contributo, perché magari concentrandosi in me poi si scelga un candidato diverso, migliore sicuramente di me, e che voglia fare di questa città la sua ragione di vita, diciamo, cosa che io dubito di voler fare, anche per interessi di carattere personale. Quindi il mio discorso è rivolto a tutti, è rivolto alle liste che non si presentano alle primarie, è rivolto a tutte le realtà, diciamo così, comasche, è rivolto ai partiti e è rivolto in generale ai cittadini. Ahimè, le regole ci costringono a convergere verso un individuo. Volta che sono presente questo incontro, sono precedenti due appuntamenti un po' più da distante, e devo dire che voglio soprattutto ringraziare Danilo Miglia e i suoi amici per avere avviato questo percorso, anche se un po' faticoso vedo anche questa sera a mettere a fuoco le cose, nel senso che io personalmente ho sentito tante persone che, basandosi sul malcontento diffusissimo nei confronti di questa amministrazione, spera che possa essere un'occasione di cambiamento, incoraggiati anche dai cambiamenti che sono avvenuti altrove. Io devo dire la verità che sono molto più scettica, molto più dubbiosa sul fatto che riconarsi poi al momento buono, nonostante tutte le proteste che fanno, abbiano il coraggio di mettere il voto su una persona diversa. Però pur avendo questo pessimismo che si accompagna a un grande ottimismo di volontà, pur avendo questo pessimismo dico, ho sempre creduto che valesse la pena fare con convinzione il percorso delle primarie, proprio per il significato di coinvolgimento, di partecipazione, di attivazione delle energie attive che in questa città ci sono e che invece sono frantumate. Io dico questa cosa essendo comasca da sempre, lavorando da più di 20 anni a Milano, per cui ho perso un po' i contatti ravvicinati. Però veramente devo dire che sono sempre colpita dal fatto che di persone validissime, bravissime ce ne sono tante, e poi però percepisco questa appunto frantumazione e arretratezza che mi sembra abbia impedito a Como un'evoluzione che invece in altre aree della Lombardia, basta pensare a Lecco, invece ha conosciuto. Allora, il lavoro che questo gruppo ha avviato e che ha fatto sì che anche altre forze scegliessero un po' di tubanti, scegliendo la fare ormai, è importante per questo, a mio modo di vedere. Quindi partecipazione. Cerchiamo a questo punto di entrare il più possibile nella parte di dialogo con la gente, di capire di più problemi, di dialogare con la gente, e quindi in questa sede il messaggio che io voglio dare, mi sembra che nei prossimi giorni, se ho capito bene, ci saranno degli incontri con tutte le organizzazioni per vedere di darsi un regolamento, di darsi un percorso. Fate tutto quello che è possibile perché ci sia un momento veramente collettivo, inizi questa partecipazione, inizi da voi, poi la competizione ci deve essere, devono essere veramente in campo dei candidati che la pensano in modo diverso, che hanno delle sfumature diverse, delle diverse, però l'importante è che tutto questo avvenga in questo quadro di forte partecipazione. Questo è quello che io vi chiedo. Sono d'accordo sul fatto che bisogna entrare di più nei progetti, però forse in questa sede o in questa fase è troppo presto. In questa fase mi sembra che sia importante essere chiari su alcuni principi fondamentali che devono essere alla base dell'amministrazione futura della città e che quindi devono essere le caratteristiche per selezionare un candidato sindaco. E dico la mia avendo fra l'altro sentito le stesse considerazioni da parte di alcuni prima. Il primo tema è proprio la partecipazione, cioè dobbiamo andare a costruire una esperienza di democrazia attiva, di democrazia partecipata, anche perché è quello che insomma ci chiedono, siamo tutti delusi da quello che il mondo della politica ci prospetta. La dimensione della città può aiutarci a recuperare questa, anche questo senso della democrazia. Quindi partecipazione, che vuol dire democrazia, che vuol dire giustizia sociale, quindi questi come criteri per ispirare il governo della città. Seconda cosa fondamentale è la buona amministrazione, non ne possiamo più, e su questo è anche un terreno sul quale si possono aggregare quelli che non si riconoscono nelle forze di sinistra. Buona amministrazione con due componenti, le competenze, e quindi anche nel far emergere candidature che abbiano delle capacità, mi diceva molto importante quanto si diceva, conoscere i meccanismi di funzionamento e riuscire a farli conoscere. Quindi competenza e nello stesso tempo trasparenza, quindi l'onestà, la trasparenza, l'attenzione a costruire un rapporto di fiducia tra amministratori e cittadini. Terzo elemento che mi sembra chiave è quello delle condizioni, e quindi io non vorrei parlare di crescita o sviluppo, perché personalmente sono anche un po' stufa di... Come? Il tempo, mantenendo la tradizione di vita. Sì, tutto veramente. Ecco, questo è il terzo elemento centrale, appunto, di non tanto crescita, sviluppo, che può essere un concetto attuale, ma di benessere, sul tema di un benessere per tutti, che voglia dire anche inclusione sociale, che voglia dire solidarietà. Ecco, per me questi devono essere tre punti forti, che siano nella carta dei valori, che siano i principi di amministrazione della nuova città, che siano i criteri per scegliere chi ci sta. Finisco subito, sono d'accordo con Cattaneo sul fatto che si vada a selezionare dei candidati che abbiano già un prerequisito di una certa di un certo sostegno, perché altrimenti quel pericolo di frantumazione eccetera che dicevo prima sarebbe veramente grandissimo. Scusate se sono grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Luca Sassi e non mi alzo da solo, mi alzo anche con Mauro perché raccogliamo un po' anche l'invito, vi volerà, ci invitano addirittura andare là. Abbiamo invito di presentare un po' quello che è successo dalle ultime assemblee, nel senso che è vero che è anche molto faticoso avviare un dibattito in un'assemblea pubblica come questa, e si vede anche stasera, però quello che è successo poi al di là degli ultimi incontri pubblici è che si sono organizzati anche dei gruppi di lavoro. Noi in particolare ci siamo occupati di organizzare delle iniziative, doveva anche trovarsi un gruppo per iniziare a pensare anche una carta di valori. Qualcuno era più incline a dare importanza a questo strumento della carta di valori, qualcuno la riteneva uno strumento meno importante. La cosa secondo me che nasce bella da questa assemblea, che se qualcuno ritiene importante una cosa può anche auto-organizzarsi e prendere anche la briga di sentire le persone che sono intervenute, che intervengono su certi temi, e cercare di mettersi all'opera. Un'altra cosa anche che secondo me è molto importante sulla partecipazione è che in questo periodo, è vero, i nomi sono importantissimi, perché poi si può fare un bellissimo percorso, ma se poi non ci sono i nomi si cade poi nel vuoto. Però in questo periodo mi sembra anche il povero Danilo, quante volte ti è stata fatta la domanda chi sono, quali sono i nomi, no? Fuori i nomi, no? Penso che li abbiano fatta tutti. Secondo me la cosa importante è anche che iniziamo a farci anche un po' noi stessi, nel senso che poi se si coinvolgono altre persone, stasera vedo molte facce nuove, poi dopo i nomi vengono fuori, non avremo il VADE che seguiremo tutti, cercheremo di organizzare dei gruppi di persone che lo sostengono, una persona piuttosto che un'altra, un'idea o un'altra del cambiamento della città. Sono d'accordo che ci saranno delle aree e ci saranno quindi dei modi di pensare che emergeranno, e poi vedremo a che candidati si arriverà. Sono contento che Luca Michelini ha fatto il suo passo, sa che su certe cose la pensiamo anche in maniera diversa, però apprezzo il coraggio, mi piacerebbe che questo luogo comunque non si riducesse mai, quindi ha detto giustamente Luca, alle primarie vere per qualcuno, ma che anche qua ne approfittino anche i partiti, le liste civiche, anche poi per presentarsi e approfittare di questo lavoro collettivo che può secondo me dare un valore aggiunto molto forte. Un'ultima cosa prima di parlare degli incontri. Sono molto contento che ci sia il professor Magatti, perché è il mio ultimo ricordo del fare politica a scuola, perché poi ho smesso di farla poi dopo il liceo, perché ho studiato e poi lavorato a Milano. Adesso questa città non è più neanche tanto bella per passarci la sera a fine settimana, quindi una persona che anche ormai orbita più su Milano come me ha voglia di mettersi in campo. Lo stiamo facendo, e adesso poi prendo gli incontri, scusate l'ultima cosa, però già in questo periodo in cui ci siamo riattivati il cervello anche su questa città, non è facile decifrare molti meccanismi, alcuni mi sembrano talmente pazzeschi che mi lasciano senza parole. Uno su tutti, vabbè, le paratie, è evidente a tutti lo scempio che è stato commesso. Io mi ricordo proprio che diciamo perché si fanno le paratie quando devono essere approvate. Ma la cosa che mi ha lasciato basito, poi ripercorrendo un po' la rassegna stampa su questo episodio, ad esempio, è il fatto che le paratie non sono mai passate in consiglio comunale. È corretto, professore, questa cosa? Sì. E addirittura c'è stata una delibera di giunta che ha approvato il progetto di giunta, quindi di un gruppo, neanche di tutto il governo della città, ma un gruppo quindi di assessori, con una nota del direttore generale del comune che diceva, specificava, guardate che a mio parere il progetto deve passare in consiglio. Io questo l'ho scoperto anche grazie al lavoro di Paco, perché devo dire che riavvicinandomi alla politica ho fatto un lavoro egregio e quindi mi piacerebbe che questo lavoro fosse comunicato al più ampio numero di persone possibili, quindi vi invito anche a discuterlo un po' questo vostro lavoro e a farlo anche parte di questa assemblea, che appunto io per primo spero che non diventi l'assemblea di qualcuno, ma un'assemblea anche che è un po' un luogo di incontro. Basta, detto questo, non vuoi aggiungere niente sulla parte generale, allora parliamo di questi incontri. Ci siamo lasciati dicendo che noi ci saremmo occupati, io, Mauro, Claudia, Luca Fonstituri, Marco Longatti, Giulio Sala, il Chissi Scarpina, se non ho dimenticato nessuno, Salvatore Amura, ci saremmo occupati anche un po' di pensare alle iniziative. Hai dimenticato la donna. Ho dimenticato Claudia Appel. Ok, no, la nostra donna. L'ho detto Claudia, Claudia Appel, c'è anche stasera. Ci siamo impegnati per cercare di capire anche come diciamo aprire ancora di più questa assemblea e far partecipare la città, quindi non di scatenare un timore un po' reverenziale di quello che è stato fatto fino adesso, ma di cercare di avere un approccio che possa invogliare la gente anche a interessarsi e a partecipare anche al cambiamento della città. Abbiamo pensato quindi che un'idea potrebbe essere quella di fare 5 incontri tematici, che potrebbero essere i 5 treni da non perdere per Como 2012, per cui in serate aperte alla cittadinanza, possibilmente se si facessero nei primi mesi anche fra settembre-ottobre qualcuno anche all'aperto, di parlare dei temi principali della città con un certo format dove intervengano le persone che hanno lavorato sui temi in questi anni, dove intervengono però anche i cittadini che invece hanno delle riflessioni indipendenti da presentare o delle domande da fare anche a chi si è occupato di questi temi. Il tutto mediato anche con delle persone esterne che potrebbero raccontare delle esperienze di altre città e poi anche fare un po' da moderatori, mediatori dell'intervento, anche perché sennò si corre il rischio che poi le persone anche fin troppo coinvolte poi in questi anni si rischino di arroccare in certe posizioni. Quindi questo è un po' il format. Se vuoi lanciare un po' i temi tu, quello di cui avevamo parlato. Sì, dunque, i temi scelti sono 4. C'è il tema dell'urbanistica, quello a questo volevamo dedicare il primo incontro, anche lì invitando una persona da fuori che è esperta di questo tema, facendola a discutere con i cittadini presenti in sala, con la stessa formula che usiamo nelle assemblee, negli incontri che abbiamo fatto finora, quindi 3 minuti, 4 minuti a testa per ognuno, ovviamente con interventi che siano pertinenti al tema. Se la sera si parla di urbanistica, chi interviene parla di urbanistica, non può mettersi a parlare di massimi sistemi o di come presentare le liste o di questioni tecniche. Il secondo tema era il tema dell'economia e del lavoro, il terzo tema è il tema della cultura, dell'università, del turismo e il quarto tema è il tema dei servizi alla persona, quindi giovani, accoglienza, assistenza agli anziani, qualità della vita, immigrazione, eccetera eccetera. C'è un ultimo tema che è il tema delle primarie. Vorremmo come ultimo incontro parlare di primarie con chi le primarie le ha già fatte, quindi con qualcuno che l'ha fatta a Milano, con qualcuno che l'ha fatta a Torino, anche un candidato che ha partecipato alle primarie a Torino oppure a qualcuno che ha organizzato le primarie a Milano. Questo è un po' il ventaglio di temi che vorremmo presentare e che vorremmo presentare e organizzare dalla metà di settembre fino a inizi di novembre, ecco, nell'ipotesi che le primarie siano a novembre. Abbiamo contattato già una serie di persone, alcune ci hanno anche già dato la loro disponibilità. Sì. I nomi però non li diciamo ancora, c'è Jeremy Riffin, poi c'è il nome Esambicino. Italia se non poteva mancare. L'Italia è venuta al cinema. Comunque sono delle personalità molto importanti che abbiamo già contattato e ci hanno dato con entusiasmo la loro adesione. Quindi presto vi presenteremo anche un programma ben definito e come sempre siete tutti chiamati a dare il vostro contributo per dirci se magari avete qualche altro tema che vi sta a cuore o se avete delle persone da segnalare per ogni singolo tema, la discussione è naturalmente aperta. Ecco, sì, poi all'inizio quando ci siamo trovati è stato molto bello perché anche è nata un po' l'ambizione di farli anche in un format molto particolare, ad esempio parliamo di trasporti, prendiamoci l'atrio della stazione centrale e facciamo l'incontro tematico con lo spazio a tema. Logicamente poi, essendo tutti impegnati con lavoro così, poi anche le ambizioni magari si sono un po' ridimensionate, però diciamo che ogni idea e ogni anche ulteriore contributo a questo lavoro è naturalmente gradito, per cui questo è anche un po' il lancio di questa iniziativa. Noi lo apriamo in maniera molto democratica senza ancora aver chiuso il programma, quindi siamo assolutamente aperti alle vostre suggestioni. Mentre lavoravamo questa cosa, tra l'altro nei giorni scorsi, per chi partecipa al movimentato gruppo di Facebook, abbiamo raccolto anche la proposta praticamente dell'Arci, che è arrivata da Lenzo D'Antuono, che questa sera ha segnalato che non poteva essere presente. Non so se c'è qualcuno di Arci, penso che Giampaolo Rosso, poi può anche chiederei anche di parlarci per qualche minuto. Ecco, io purtroppo non ti conosco, per cui c'è anche questa proposta di Arci di fare una serata della città che vorremmo, un incontro che l'Arci si è resa disponibile anche a prestare un po' prima di avere per Como, comunque a promuovere in collaborazione, e quindi lì potrebbe essere un momento più generalistico magari dove raccogliamo un po' di idee ulteriori e iniziamo magari a presentare anche questo programma di incontri. Il messaggio però che voglio passare è quello che è vero, l'assemblea è molto faticosa, secondo me è anche molto bello, e secondo me è molto bello che ci siano ancora persone, anche rappresentanti di lista, anche il dottor Molteni, sono contento di vederlo, non lo conosco, però ecco, vedere questa partecipazione mi piace molto. Vorrei che questo spazio rimanesse aperto, crescesse e che quindi si possano anche poi auto-organizzare altri gruppi e rafforzare quelli già esistenti. Grazie comunque a tutti l'attenzione. Ciao a tutti, sono Andrea Palamara, lavoro qua. No, è per parlare mio. Quindi è economia. Dicevo, sono Andrea Palamara, lavoro all'Arci Xanadu. Sono contento di vedere questa assemblea così viva, partecipata. Io non sono a Como da tanto, ma vista da fuori sembra una città che ha bisogno di una scossa. Infatti vedo che ci sono alcuni pessimismi, io sono abbastanza ottimista, sia di natura sia perché mi sembra che la città sia stata comatoso, quindi non lo so, una scossa potrebbe dare degli effetti anche imprevisti, come ha dimostrato Milano, non bisogna porre limiti alla divina provvidenza. E niente, volevo portare la mia testimonianza, i ragazzi anche dell'Arci che lavorano con me sono molto interessati a questo percorso, lo stanno seguendo da vicino, mi hanno delegato a seguire queste iniziative. Voi sapete bene che abbiamo un rapporto difficoltoso, diciamo così, con l'amministrazione comunale. Speriamo che questo possa cambiare, magari che cambi l'amministrazione, insomma, che comunque il nostro rapporto migliori. Ma non è un problema solo nostro il fatto che le attività giovanili siano molto, molto, molto ostacolate dall'amministrazione, è una cosa che si sa e soprattutto di tutti. Quindi io, niente, volevo augurarvi buon lavoro, questa cosa proceda, siamo come Arci ovviamente disponibili a seguire la cosa in tutte le sue fasi, siamo disponibili a dare una mano organizzativamente, se c'è da fare qualcosa, noi abbiamo gli spazi, abbiamo le capacità anche per mettere una parte intrattenitiva, diciamo, al percorso, ed è una parte quella dell'intrattenimento che secondo me è abbastanza importante, perché come dicevo anche già Danilo, abbiamo già parlato di questo argomento. Una delle carte che secondo me è stata vincente a Milano è stata la fiducia e la partecipazione che quei candidati hanno avuto nei confronti dei giovani, sono riusciti a coinvolgerli, sono riusciti a dargli fiducia, a dargli possibilità. È stata condotta una campagna elettorale molto diversa da come si conduceva di solito, come è abituata a condurre di solito la politica, e questo secondo me è stato uno degli elementi vincenti. Quindi noi appoggiamo questo percorso, speriamo che come dire, si riesca ad andare sul concreto abbastanza in fretta, che è una cosa che in genere mi preoccupa di questa assemblea, e al di là di questo, buon lavoro. Signor Pizzotto. Pizzotti. Poi si chiama Ermanno. No, poi fa molto piacere che sia una persona che non mi conosce, perché vuol dire che c'è un po' di aria nuova. Stufo delle stesse facce. Io sono portavoce di Paco, che è il gruppo che conoscete. Mi sembra che il clima sia buono e positivo. Vedo una, come dire, appunto, facce nuove, un abbassamento interessante dell'età media che senz'altro fa bene, però vorrei richiamare un elemento importante, che è quello dei tempi, in quanto per arrivare con una campagna elettorale consistente che coinvolga tutta la città, candidando una persona che abbia superato una gara, una gara anche questa viva e partecipata come quella delle elezioni primarie, è necessario definire dei tempi certi. A mio modo di vedere, questo 20 di novembre, adesso non lo so, mi sembra un modo non molto democratico di decidere, nel senso che se poi da Roma qualcuno fa questa data e viene definita a livello nazionale come, vabbè, insomma, può anche essere, può essere un punto di riferimento. Certamente come tempo per lo svolgimento delle elezioni primarie è abbastanza plausibile, però non mi sembra una data che possa essere superata di molto, per evitare di trovarci poi a gennaio o febbraio a rincorrere. E quindi è importante riuscire a definire, su questo noi abbiamo fatto qualche ragionamento che poi possiamo proporre, però è molto importante riuscire a definire una carta dei valori che, come è stato detto prima, deve essere abbastanza generale, ma insieme discriminante, che sottoscrivono i candidati, coloro che si candidano a diventare candidato sindaco. Delle regole, anche qui abbiamo fatto un po' di indagini, anche altri hanno fatto le indagini su quello che è accaduto in altri comuni, magari preferirei guardare comuni di dimensioni più simili a quella di Como piuttosto che guardare a Milano, però senz'altro è necessario individuare dei meccanismi di costruzione dei programmi alternativi uno all'altro da parte dei diversi candidati coinvolgimento della cittadinanza, e in questo senso il suggerimento che è arrivato adesso per ultimo di andare ad affrontare i temi nelle diverse parti della città cogliendo punti dolenti importanti, differenti però della vita amministrativa, è utile. Però vediamo di definire, forse la cosa più importante questa sera che dobbiamo definire sono dei tempi, nel senso che se adesso è il mese di settembre e decidiamo una data, che potrebbe essere, non so, verso la metà di ottobre o l'inizio di ottobre, entro la quale le candidature si materializzano con un numero di firme plausibile che non sia né troppo elevato né troppo basso, e si definisce di aderire alla data del 20 novembre come definizione dello svolgimento delle primarie, allora siamo in tempo, altrimenti rischia di essere un po' una rincorsa. Ecco, questa è un po' la proposta che io farei venisse licenziata questa sera come elemento, come dire, come primo carri, anche perché c'è anche un aspetto mediatico che dobbiamo tenere, ho visto qualche spia della stampa locale. C'è un aspetto mediatico. Allora, se noi questa sera o domani mattina riusciamo a dire questa assemblea, recependo e con la presenza, cioè che da un lato comprende persone che si interessano alla vita della città, dall'altro un'assemblea in cui sono presenti forze politiche significative dell'opposizione di questa città, ha deciso che entro una certa data si presentano le candidature per svolgere nelle settimane successive, in coordinamento con quanto si farà a livello nazionale, le elezioni primarie. Secondo me questo è già un segnale dal punto di vista mediatico con il quale il mese di settembre comincia, dando alla città l'idea che una macchina si è messa in movimento. Grazie. Paolo Grosso. Io volevo chiedere due cose. È la spia della strada. Sono registri un po' diversi, no? È lui la spia della strada. Il primo. La prima questione è la questione che è stata posta da Danilo, che questa assemblea è neutra. Io, a me non piace la parola neutra, però lo interpreto come se fosse costituzionale, cioè un'assemblea nella quale si stabiliscono le regole. Su questo io, ma anche l'ACI, poniamo con forza la necessità di garantire quelle condizioni di apertura che faceva prima Bruno Vagatti, con l'assoluta necessità dell'apertura della consultazione alle primarie per i migranti, i cittadini che le norme, ai quali le norme non garantiscono i diritti di cittadinanza completi, e ci sembra anche giusto anche aprire anche in chiave formativa ai ragazzi di età inferiore a quella del voto, mi sembra 16 anni da giovane. Allo stesso modo, se appunto stiamo ragionando in termini di esposizione di regole, è molto importante che, visto che questa assemblea non è un partito, non è il luogo di una lista civica e appunto si pone in questo ruolo di garanzia, che a questo ruolo di garanzia si proceda in tutte le fasi, quelle del regolamento e tutti gli altri, quella per esempio del stabilire, e non può essere che qui che viene fatta una proposta, il numero delle firme necessarie per procedere a una candidatura. Forse 200 sono troppe, certo. Perché a Milano pare fossero 1000. Però comunque un numero congruo di firme, non tanto per evitare che i candidati siano troppi, perché dal punto di vista anche elettoralistico lo dimostra l'esperienza di Cantù, più sono i candidati più voti si prendono. Questo è un po' triste in verità, perché sembra quasi che qualcuno voti solo per se stesso, però comunque prendiamo anche questo aspetto che può essere utile. Questo per la prima parte. Per la seconda parte, quella relativa, insomma, perdonate, io sono abituato, ci siamo dove andiamo. E un certo disagio, perché, come dire, tanta energia mi sembra un po' troppa per solo quello scopo di garanzia. Preferirei, mi auguro, in qualche modo anche l'intervento di Luca ha un po' spiazzato da questo punto di vista, che tanta energia serva anche per proporre candidati. Ma ben inteso, chiarendo bene che non è che tutti i candidati devono essere venire da questo gruppo, come pure è pure probabile che in questo gruppo si debba poi dividersi in modo, come dire, fraterno in candidature differenti, che giustamente poi confluiranno in candidati diversi alle primarie per poi riunirsi amorevolmente nel patto di lealtà che tutti sottoscriveranno, di cui ovviamente credo questa assemblea nel suo aspetto costituente potrebbe essere garanzia. Per fare questo c'è un problema, qui ci sono molte persone, su Facebook ce n'è qualcun'altra, ma evidentemente il meccanismo della proposizione delle candidature deve essere molto ampio. Luca giustamente ha rotto gli indugi e ha detto io ci sono, altri si sa che ci sono e sono noti, io non ci sono e dico subito che dobbiamo trovare un modo in cui queste candidature vengano espresse. Anche qui l'insieme di queste assemblee è la sede opportuna perché si formino dei gruppi a sostegno di candidature, fermo restando che i partiti, no, pensavo fosse l'inizio naturalmente i partiti, i gruppi politici, i movimenti, quant'altro hanno pieno diritto di presentare, ci mancherebbe, se no altro che primarie vere sarebbero primarie predefinite, no? Quindi non è, ripeto, la mia posizione è quella, io ho cercato di esprimere su Facebook, che giovani, diversamente giovani, impegnati nei partiti, alla prima esperienza, alla quattordicesima, che anche se c'è sicuro che sarà l'ultima, potrebbe essere un vedere interessante, non è dirimente. Io voglio sapere chi è, vorrei sapere cosa ha fatto prima e vorrei che approvi pienamente, che lo dimostri con la sua vita pregressa, anche un 18 anni per passato, la corrispondenza alla scala, alla carta dei valori. Siccome non ho tempo, carta dei valori. Per me si potrebbe partire da quella scritta da Patrignani, peraltro interna al discorso che faceva prima Tonina Santi, con la necessità di aggiungere, era tra le righe il tema della laicità, e di aggiungere, ma anche lì era tra le righe, insieme a quello dell'uguaglianza, il tema dell'apertura alle differenze. C'è già scritto, forse potrebbe essere più evidenziato. L'Arci partecipa a questo percorso per i suoi aspetti di costruzione di democrazia, non partecipa alle singole liste, alle singole candidature e a quello che giustamente ne verrà fuori. Mette a disposizione Lotto per un'assemblea per la quale abbiamo già preso la piazza perché i tempi non permettevano di fare diversamente, nella quale, a nostro avviso, se Primaria per Como la assume come propria, in quella sede si comincia a ragionare. Noi abbiamo proposto la possibilità della lettera ai candidati, persone esperte, persone competenti che già hanno delle opinioni sedimentate, ma anche liberi singoli cittadini, siccome è un'assemblea aperta all'aperto, possono dire la loro. Poi certo, quelle idee non sono un programma, ben vengano le riunioni tematiche e poi probabilmente ci vorranno anche i gruppi più stretti, eccetera. Un'unica cosa però, tutte le riunioni devono essere trasparenti. Le riunioni dei gruppi di lavoro, le riunioni dei gruppi che preparano i gruppi di lavoro, le riunioni delle commissioni che preparano i gruppi di lavoro devono essere visibili su internet. Tutto deve essere trasparente perché il percorso è il valore. Ultima cosa, nel merito, urbanistica va bene, ma che sia urbanistica, non costruzione. Ecco, questo per me è molto importante. E francamente non partirei dall'urbanistica, prima le persone, poi gli oggetti. Bravo. Massimo Manera. Alberto. Scusate. Però può va bene anche Massimo. Sono Alberto Zarda, era prima sera che partecipo a queste riunioni e, diciamo, frequentando molto la strada del lago, che aiuta a riflettere anche perché ogni tanto il traffico si rallenta. Questa sera era particolarmente rallentato dopo Moltrasio, dal semaforo a scendere, e come normalmente accade quando si ferma una corsia, anche dall'altra parte l'altra corsia si ferma. Se da una parte esistono i partiti, no? Che hanno un valore, una funzione, che esercitano una delega di rappresentanza, dall'altra parte c'è un movimento che cerca una sua espressione e anche una forma di partecipazione e di rappresentanza. In questo momento, come è successo poche ore fa, vedo un possibile rischio di rallentamento delle doppie corsie. Poi fortunatamente io vado in Vespa e quindi sono passato in mezzo e sono riuscito a superare la galleria e anche lo smog, perché anche uno dei problemi è fondamentalmente quando ci si rallenta non è che si cerca di rispettare l'altro o anche ascoltarlo, no, si lascia la macchina accesa anche in galleria. Detto ciò, ci tenevo a sorpassare questa galleria per arrivare verso questa città. Io penso che il problema di questa città è qual è la cosa peggiore che può accadere a una persona? Parlare con saccenti. Oppure? Non si aspettava la risposta. Non lo so, secondo me la peggior cosa che può succedere a un individuo è togliergli il nome. Togliergli il nome, come mi pare fecero gli sloveni, cancellarono il potere più che il nome. Sto facendo un altro ragionamento, era una questione di narrazione. Gli sloveni a un certo punto hanno cancellato dagli elenchi dalle residenze, no? Forse penso 10-15 mila persone, a un certo punto sono sparite, non hanno più nome, non hanno più identità. Ecco, io penso che il problema di questa città è che sta perdendo il suo nome, se non l'ha già perso, e perdendo il suo nome perde la sua identità, e credo che questo sia un problema serio. E se all'ordine del giorno, e Luca Michelini non penso abbia fatto una proposta così per farla, abbia posto una necessità, allora qua il problema è che sono la voglia di primarie che spinge il candidato, o è il candidato che spinge la voglia di primarie? Poi, siccome c'è qualcuno che ha i capelli grigi e qualche esperienza passata nei tempi della politica e di che cosa la politica decide, c'è già un ritardo chiaro rispetto a quello che può accadere, rispetto a questo che questa assemblea può esprimere, a questo che questa città non ha espresso, al fatto che i cittadini non sentono il bisogno, non abbiamo sentito il bisogno rispetto a tutte le violenze che sono state perpetrate in questa città, di uscire e di spaccare quello che è un silenzio assordante sul fatto di sentirsi rappresentati, quando anche io non posso pensare che si dice questa questione delle paratie non è passata in consiglio comunale, punto. Non è una critica, è un atto di violenza, un atto di violenza che pagano i cittadini e quelli che verranno. Quindi questo è avvenuto. Oggi c'è, non solo a Como, in tutto il paese, una possibilità di esercitare una forma di democrazia diversa, alternativa, e questa cosa avverrà indipendentemente dai partiti, e di cui i partiti devono farsi carico. Questa cosa avverrà comunque, indipendentemente da chi sarà il prossimo sindaco di Como. E penso, questa è una proposta, oltre a fare dei ragionamenti, che se posso finire poi, sì. Penso che sia necessario pensare che chiunque sia che verrà espresso come candidato, chiunque sia che farà sindaco, sia di centrodestra, di centrosinistra o, diciamo così, di espressione della società civile, debba porre, penso che su questo si possa essere a 360 gradi d'accordo, come prioritario il fatto di stimolare e rendere esigibile la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che stanno sul territorio. Quindi non la ridurrei che la partecipazione democratica è quella di scegliere un candidato, riterrei la premessa fondamentale è quello di realizzare la partecipazione per creare una città e un contesto civico più democratico. Se questo è, potrebbe essere che quello che non si riesce a realizzare per queste elezioni può avere una prospettiva diversa, ma si prepara un movimento che allarga, crea cultura, permette la trasmissione del sapere e crea anche una forma diversa, anche faticosa, di partecipazione alla vita civica. Questo io penso, per evitare di essere disillusi dal fatto che magari, come succederà, si semplificherà, si troveranno dei candidati e i partiti faranno il loro, si cercherà poi alla fine di dirsi non possiamo disgregarci di fronte all'impero del male, teniamoci uniti e facciamo in modo di rendere partecipe la società civile all'espressione di questo. Se questo è un progetto interessante, probabilmente questo progetto potrebbe creare interesse a persone che fino a ieri pensavano che era tempo perso, o forse che, siccome il tempo per tutti noi è importante, è meglio dedicarlo ai libri o alle proprie passioni piuttosto che disperderlo rispetto a chi non è capace più di ascoltare. Grazie. Grazie. Grazie. Volevo chiederle, io sono Katie Miriano di Teatro Regione dei Inquinati, per quale motivo è così sicuro che le cose, indipendentemente dalle persone che si potrebbero candidare, andranno così? Non ho espresso questa sicurezza. Io ho posto come domanda: se sono le primarie che spingono il candidato o il candidato che spinge le primarie? Le persone sono determinanti, ma da sole in un progetto politico non vanno tanto lontano, secondo me. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, no, aspetta, se qualcun altro voleva anche prenotarsi. Sì, allora, uno, due, no. Tre, quattro. Poi vedi Daniele. Ah, punto. Sì, cioè prima quelli che non hanno parlato. Quelli che non hanno mai parlato, sì. Cioè. No, ecco, siccome stiamo arrivando a un orario anche, chi volesse intervenire, se ce lo può dire, noi lo mettiamo in ordine e così parla, no? No, sì, Daniele, se i geologi volevano presentare. Dove? Ah. Sì, sì, sì. sono Maurizio Ronchetti, no, vieni anche tu Daniele, parliamo in due, abbiamo più tempo. Allora, una nota personale, ho notato con piacere che c'è stata un'accelerazione sull'esigenza di avere dei nomi per il sindaco, e che giustamente qualcuno ha detto non abbiamo molto tempo ancora, quindi bisogna vogliare. Mentre invece nello specifico, l'altra volta avevo auspicato che ci fosse un gruppo di lavoro per quanto riguarda l'ambiente e diciamo anche la pianificazione territoriale. Nel frattempo noi non è che ci abbiamo lavorato molto, non ci siamo trovati, ci siamo sentiti un po' su internet, diciamo. E adesso cercheremo di accelerare anche noi su questa cosa. Volevo esprimere solamente un paio di considerazioni, perché poi qui c'è molta gente che comunque è attiva dal punto sulle tematiche ambientali, vedo persone che hanno visto gli incontri sull'acqua, e quindi credo ci siano molte competenze e i problemi ambientali che esistono sono abbastanza noti e anche le soluzioni. Però credo che in futuro il grosso problema sarà i soldi che si potranno investire sull'ambiente, perché l'ambiente è un po' la centralità della qualità della vita delle persone. Molti interventi hanno preso di striscia in pieno anche la qualità della vita della città. E la qualità della vita della città è strettamente connessa alla qualità ambientale. Il problema di tutte le città è che la pianificazione territoriale è mossa dalla politica, e la politica, adesso parlo generalmente, è mossa dagli interessi. Non ho mai visto fare della pianificazione territoriale che non fosse fortemente orientata dalle scelte della giunta in carica, in qualsiasi comune. In prospettiva ci saranno meno risorse per i comuni, ci saranno forti richieste su quello che sarà l'esigenza per il sociale, penso agli asili, penso ai luoghi di ritrovo per le persone anziane, ai servizi sociali, e quindi un problema che sicuramente dovrà affrontare la prossima giunta è quella di avere i polsi fermi quando bisognerà rinunciare per esempio agli oneri di urbanizzazione, perché molti interventi brutti portano soldi alle casse del comune. Ci vorranno persone, chiunque sarà, che avranno il coraggio di rinunciare spesso a degli introiti che derivano dagli oneri a favore della qualità della vita. E poi ci dovrà essere, secondo me, cioè a me piacerebbe votare una lista, un candidato che dia chiaro un cambio di orientamento culturale. Penso per esempio a come si affrontano determinati problemi anche di emergenza. È successo recentemente il problema di Brienne e ho letto sui giornali articoli supportati anche da politici che dicevano il problema è che i boschi non vengono tenuti in ordine. Spero che tutti voi siate d'accordo nel pensare, nel dire, nel affermare che quello che è accaduto a Brienne non è un problema di boschi puliti, è qualcosa di diverso. C'è stato un evento con un tempo di ritorno lunghissimo che ha innescato dei fenomeni naturali. Bisogna fare della pianificazione corretta, a volte si possono vedere degli indizi sul territorio, bisogna avere anche il coraggio di prendere dei provvedimenti anche che vadano a favore di chi magari abita in una casa che è un po' troppo nel letto del fiume, o piuttosto altri problemi di questo tipo. Quindi a me piacerebbe che si affrontasse questo problema culturale, che la prossima lista abbia delle persone competenti da questo punto di vista, perché tramite la competenza si potranno in parte affrontare, poi sicuramente si potrà fare poco in 5 anni, ma cominciare a fare qualcosa. C'è Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? No, condivido pienamente tua opinione, il tuo discorso. Il punto è questo, è preoccuparsi di ambiente. Quando si ha a che fare con la pianificazione territoriale non è un argomento di facile gestione e soprattutto non punta a risultati nell'immediato. Cioè questi non li può garantire e offrire, quantomeno nei tempi di una legislatura. Ecco, si lavora tanto sulla prevenzione, ma a lungo termine, e purtroppo, è vero, come dicevi te, si può rischiare di andare a toccare interessi grossi, e qui entra in gioco, se vogliamo, il coraggio e l'onestà intellettuale di amministratori e tecnici nel fare una pianificazione territoriale che sia a beneficio della collettività e non di interessi privati. Ecco, per cui lavorando insieme a Maurizio nel campo, siamo entrambi due geologi, ci rendiamo conto appunto che è un ambiente delicato, appunto, che può toccare interessi e argomenti delicati e di difficile gestione. Luca, veloce perché ci sono tanti interventi. Sì, no, io volevo solo che l'assemblea acquisisse alcune delle cose che sono venute fuori stasera, cioè voglio la garanzia che alcune delle cose che sono importanti e che sono venute fuori vengano poi portate avanti. Mi sembra ad esempio che la questione di chi vota alle primarie sia una cosa fondamentale, come è fondamentale il numero minimo di firme da raccogliere per supportare queste cose. Io credo che ad esempio la proposta di Bruno sulla questione degli immigrati pieni cittadini perché residenti, quindi io non voterò le primarie perché non sono residente a Como, però ritengo che ha più diritto chi è direttamente presente sul territorio, sia già un'indicazione di quello che noi diciamo, di quando noi parliamo di carta dei valori. Cioè non c'è bisogno certe volte di metterlo per iscritto, ma già una proposta di questo tipo mi dice una cosa. L'altra cosa riguarda, ed è importantissima, e non voglio che passi sottovalutata, è la proposta di far votare anche chi ha 16 anni. Noi siamo in una società in cui continuano a entrare sul mondo del lavoro come apprendisti, ad esempio tirocinanti, persone con i 16 anni che non hanno magari un diploma, eccetera. È stata fatta una riforma sull'apprendistato che probabilmente non risolverà alcune problematiche che sono poste dalla questione dell'acquisizione di una professionalità e di un diploma, eccetera, però dobbiamo tener conto di questa fetta di persone, sono tanti, molti di più di quello che si pensa, che smettono di andare a studiare e entrano nel mondo del lavoro, sono presenti anche nelle nostre zone. Sulla questione del percorso, mi chiedevo, sentendo la discussione, se noi non sarebbe meglio fissare, io mi chiedo una cosa, ma il percorso è identico a quello che ci porta a elaborare le primarie fino alla fine poi del voto? Cioè, secondo me ci sono due tempistiche diverse. Una è quella per arrivare alle primarie e definire chi sarà il candidato del centro-sinistra, eccetera. Un'altra invece è quella che porterà poi nella discussione alla contrapposizione con l'avversario. Secondo me dobbiamo tenere, molte delle cose che sono venute fuori anche stasera appartengono al secondo step, secondo me. È utile centrare l'attenzione già ora, me lo chiedo, non ho la risposta, è utile già centrare ora l'attenzione su alcune delle cose che poi in realtà saranno parte della seconda fase. L'ultima cosa, io raccolgo anche sulla scia di quello che dicevo nell'intervento nella due assemblee fa, raccolgo con favore la candidatura di Michelini. No, non sono di Como. Spero non sia una decisione. No, è un arricchimento, però non puoi decidere tu, decidono quelli di Como. Sì, però posso dire un arricchimento, sì, infatti l'ho detto. Cerco di arricchire, se vedete la straniero. Ero residente a Como fino a 4 mesi fa. Lo dico solo così. Allora, scusate, voglio chiudere con questa cosa. Voglio chiudere con questa cosa. Adesso mi è scappata. Quando io rivendicavo la nettezza, mi fa piacere che si sia fatto avanti Michelini, proprio perché rappresenta, secondo me, quello che è la nettezza rispetto ad alcune cose. Chi ha ascoltato il discorso precedente che lo rifaccio sa che cosa intendevo nettezza nelle posizioni. E poi ha un grande vantaggio, è l'unico candidato che può farsi la permanente o qualcosa. O la messa in piedi. No, cioè, posso solo un problema tecnico? No, facciamo parlare. No, qual è il problema tecnico? No, perché quello che diceva quella signora che adesso non mi sfugge, che lui non è di Como. No, è un problema tecnico, nel senso che Como. Pongo questo proprio, chiedo scusa per un problema tecnico, però vivono, molti lavorano a Como, quindi come dire, la città è un po' come diciamo gli extracomunitari, quindi voglio dire, c'è anche, no, è un problema, nel senso che molti lavorano a Como ma votano in un altro, cioè questa è la globalizzazione, quindi come ci si pone il problema per gli extracomunitari e per i sedicenti, probabilmente per le primarie si pone oggettivamente lo stesso. Buonasera a tutte e a tutti. Io dico subito qual è il mio candidato o la mia candidata, quella che vorrei o quello che vorrei. È il candidato o la candidata che è in grado di vincere le elezioni e di essere eletto sindaco. Io sono molto stupito che non aver ancora sentito questa cosa, perché si è girato molto intorno, ma la domanda che poneva un attimo fa il mio amico Luca, e se cioè ci deve essere un nesso tra la fase delle primarie e la fase poi delle votazioni vere per eleggere il sindaco e il consiglio comunale, la mia risposta è che ovviamente questo nesso c'è, e se si perde di vista fin da subito questo nesso, le elezioni non le vinceremo mai. Questa è una città in cui si mormora continuamente, o si dice anche a voce alta continuamente, che l'amministrazione sbaglia, che il sindaco, credo che a Como nessuno parli bene del sindaco attuale. Io parlo ogni giorno con moltissime persone, non ho ancora sentito una persona anche di opinione vicina al centrodestra che mi dica bene del sindaco attuale. Eppure poi fino adesso, quando si è andati a votare, purtroppo ha sempre vinto il centrodestra. Allora, io non voglio che si ripeta una situazione di questo tipo. Sono disposto a impegnarmi, se fin da adesso tutti insieme vinciamo, lavoriamo e ci impegniamo per vincere le elezioni. Allora, per fare questo io credo che si debba scegliere un candidato o una candidata e un programma elettorale, e lavorare fin dalle primarie per questo. Poi è bene, tutte le cose che sono state dette io le condivido, la trasparenza, la partecipazione, ci mancherebbe altro, altrimenti non saremmo qui, ma lavorare fin da adesso per questo obiettivo. Per fare questo io credo si debba scegliere un candidato o una candidata e un programma elettorale che sia in grado di attrarre la maggior parte delle cittadine e dei cittadini di Como a votare questo candidato, questa candidata e questo programma elettorale. Questo è l'obiettivo, secondo me, che ci dobbiamo proporre. Poi all'interno facciamo tutti i gruppi di lavoro. Io condivido le cinque proposte che sono state fatte, però se perdiamo di vista quello che è l'obiettivo principale, credo che non ci siamo. Per questo ho apprezzato il fatto che Luca si sia quantomeno presentato, perché se non ci sono intanto le persone che in prima persona si espongono, e se non avanziamo il programma elettorale su cui votare alle primarie, ma su cui poi, ripeto, c'è il nesso strettissimo, su cui poi votare alle elezioni vere, io credo che non si va avanti e soprattutto non si vincano le elezioni. Noi dobbiamo essere in grado, credo, di poter attrarre non solo le persone che sono qui stasera, quelle che sono vicine a noi, che più o meno la pensano come noi. Quindi innanzitutto è necessario un candidato, una candidata che raccolga la massima unità di questa parte della città, ma di attrarre poi anche molte persone che stanno o sono state finora dall'altra parte, che fino adesso hanno mormorato, magari anche parlato a voce alta, o magari anche scritto sui giornali o detto in televisione che l'amministrazione non fa bene, ma che però poi fino adesso non si sono schierate e non sono ancora disposte a schierarsi per il cambiamento. Credo che sia questa la carta vincente, mi piacerebbe sentire il vostro parere su questo punto e vi ringrazio. Allora, io capisco, buonasera. La voce purtroppo è questa. Guido Capizzi, buonasera. Allora, io sogno che nella lista dei candidati al Consiglio Comunale, non parliamo di essere candidati sindaci, ci sia gente che abbia al massimo 35 anni, punto. Dopodiché faccio una premessa necessaria per chiedervi scusa del limite delle cose che poi vi racconto velocemente. Io ho la fortuna di aver fatto sempre due mestieri, che è sempre meglio che lavorare. Mi sono, e mi occupo ancora un po' di economia più macro che micro, per cui ho un limite poi nel pensare all'economia più un po' meno macro, e poi scrivo, scrivo prevalentemente per testate economiche, quindi non sono neanche io la spia, ma non lo è neanche l'amico Alessio, perché non può essere definito tale quando qualcuno prima diceva di spie. È la terza assemblea. Abbiamo navigato in Facebook raccontandoci di tutto e di più. Qui è arrivata anche la convocazione della serata con questi quattro punti, iniziative per il programma a cura del gruppo comunicazione. Io però in Facebook non ho visto il gruppo comunicazione intervenire per magari darci due o tre suggerimenti sulle cose di cui parlare stasera. Secondo me un programma di coalizione deve comunque nascere, non può prescindere dai programmi che vengono elaborati dai, ci piaccia o non ci piaccia, dai partiti che fanno parte della coalizione, perché un programma ce lo devono perlomeno raccontare loro. Allora, dobbiamo pensare a quale modello di città di Como questi partiti della coalizione ci verranno a dire qualcosa. Abbiamo smarrito in questa città la vocazione manifatturiera. Non sono molto d'accordo con quanto diceva Luca, che Como è una città di manifatturiero. Siamo incapaci, siamo stati incapaci di sostenere la vocazione terziaria, dove per terziario non intendo i negozi, le vie del commercio, ma intendo soprattutto tutto il settore dei servizi. A mio parere la vocazione che si può costruire per questa città è la vocazione turistica di questa città. In ogni modo, qualsiasi sia la vocazione alla quale tendiamo, non possiamo prescindere dall'ascolto delle parti sociali. Allora, le parti sociali, le organizzazioni del mondo del lavoro, datoriali e sindacali, gruppi e movimenti, lavorano costantemente sulle tematiche dello sviluppo della città e non solo della città. Mi piace ricordare solamente che intorno, vogliamo parlare di urbanistica, di vocazioni, al piano di governo del territorio, che è provinciale, che è però fatto dai piani di governo delle dei vari comuni, le parti sociali, il loro contributo lo hanno dato, ed è anche un contributo serio che hanno dato, quando parlano di infrastrutture, quando parlano di trasporti, quando parlano, mi ero segnato due o tre, di viabilità, di quale destino deve avere questa città, perché si confrontano con la parte politica. È certo che poi purtroppo ci si confronti con chi governa o mai governa la città e la provincia, o ci si confronti anche, perché questo capita in altre situazioni, dove ci si confronta con chi magari un po' meglio governa, ma governicchia con un altro colore, con un'altra casacca politica. I tempi di questa benedetta politica sono sempre così diversi dai tempi che le parti sociali hanno in mente, che non si combina mai nulla. È per questo che torno a quello che vi dicevo come premessa, ho finito, come premessa, cioè io spero che l'età massima dei candidati consiglieri sia di 35 anni. Michelini può essere anche lì, quindi fuori. No, io intanto devo dire che le iniziative che sono state prese, grazie a Danilo, a Luca e agli altri, per costituire questa assemblea, le riunioni sono assolutamente apprezzabili. Dicevamo che noi la prima riunione l'abbiamo fatta circa, non voglio sbagliare, due mesi fa. Dicevamo già allora di fare presto, di sbrigarci, perché qualcuno ricordava come colui il quale vinse a Milano, chi sapeva, addirittura partì circa un anno prima, candidandosi ed operando, non soltanto candidando, ma operando sul territorio, e cosa che rispetto agli altri candidati, indubbiamente anche delle altre, diciamo dell'altro schieramento, ha sicuramente portato dei vantaggi che poi abbiamo visto i risultati finali, che sono stati assolutamente positivi. Quindi dicevamo, diamoci subito le scadenze immediate, il percorso con le date precise, le cose assolutamente necessarie da fare. Però io devo dire che, nonostante la positività anche dell'incontro e del dibattito ricco, che è un inizio soltanto, e i temi che si aprono sono tantissimi, una parentesi, mi rammarico che in questi 4 anni e mezzo di lavoro in Consiglio Comunale, che pure l'opposizione, devo dirlo, non perché ne facciamo parte, abbiamo operato, ma indubbiamente ha fatto un gran lavoro, che forse probabilmente non è molto conosciuto, però chi ci ha seguito conosce anche il lavoro che è stato fatto. Sarebbe stato assolutamente opportuno e necessario avere questo coinvolgimento già negli anni scorsi. Quindi facciamoci un autocritico un po' tutti, perché se si opera non soltanto al momento elettorale per la partecipazione, ma il lavoro successivo viene seguito poi da tutte, da queste persone, da altre, dalla città viva, vera, allora indubbiamente i risultati anche dall'opposizione si possono benissimo ottenere. Io non condivido quello che qualcuno ha detto prima riguardo alla pochezza dei poteri e delle competenze anche del Consiglio, perché il Consiglio, se si legge bene lo statuto, diciamo, che delinea le competenze del Consiglio, ha una serie di competenze e di possibilità tale da poter rendere efficace anche un'azione di forze minoritarie, ma questo riguarda un problema, forse riguarderà gli avversari, quindi spero che noi diventeremo forze di maggioranza. Allora, il percorso, io direi che si debba decidere, diceva prima Bruno, che riguarda le date, io direi che già entro settembre. Quindi io non andrei a metà ottobre, che sarebbe già una data che ci porta fuori, e già tanto anche entro settembre. Io direi che entro il 20 settembre dovrebbero già essere aperte, presentate le candidature, in una decina di giorni, entro fine settembre. Si aprono le candidature, non so, entro metà settembre, si depositano le candidature entro fine settembre, sulla base di un programma minimo, che non può essere ovviamente il programma elettorale, perché non ce ne sarebbe la possibilità e il tempo, ma sicuramente le forze politiche hanno la possibilità, tutti noi abbiamo la possibilità, perché non siamo all'anno zero, perché c'è tutto un lavoro anche di elaborazione, di poter mettere diciamo, di poter stendere un programma di coalizione condiviso e condivisibile sul quale i candidati possibili ovviamente aderiscono, arricchendolo magari della propria formazione, della propria sensibilità eccetera, presentandosi poi alla scadenza per la candidatura. Candidatura che dovrà essere supportata, io credo, del requisito di, si parla di 200 firme, decidiamo le firme, 200-250, peraltro sono anche proporzionate rispetto ad altri contesti dove le firme erano, in altre città, si è fatto l'esempio di Milano, di Bologna, erano in proporzione, erano 1.000-1.500 nelle altre città. Riguardo poi alla possibilità di chi vota, io direi che il regolamento anche delle città simili a noi, io ho dato uno sguardo ai regolamenti di altri, cioè, tipo Pavia per esempio, ho finito, assolutamente riproduce quelle che sono, quello che ricordava prima Magatti, cioè vota ai sedicenni, agli immigrati con permesso di soggiorno e a coloro i quali hanno i requisiti per esercitare l'elettorato, diciamo, attivo, quindi residente, con certificato elettorale. Io quindi la proposta concreta che faccio è questa, cioè dire di andare a stabilire le date precise per la presentazione delle candidature, ma la data dovrà essere la più ravvicinata possibile, perché credo molto che oltre al lavoro che viene fatto dal gruppo dei partiti, quando saranno poi delineate le candidature saranno coloro i quali saranno effettivamente capaci sul territorio, per confronto del lavoro che faranno sul territorio, di essere, di dare molta visibilità alla proposta della coalizione. Scusate, una cosa prima che intervengano gli altri sui tempi, no? Parlando oggi, no? E quindi con i contatti che parte della segreteria del PD ci ha comunicato, no? Che il 5 o il 6 dovremmo trovarci, cioè tutte le forze della coalizione interessate a, quindi tutte, compreso, cioè, anche le forze. E noi, cioè noi nella persona poi di qualcuno che verrà delegato stasera, si dovrebbe discutere di carta di valori, regolamento e anche i tempi, perché quella data che ho detto anch'io, ho accennato il 20, io l'ho letto un po' sui giornali, ma è una cosa, il 20 di novembre, una cosa da discutere con le forze della coalizione, appunto, era soltanto questo. Però stasera noi dobbiamo anche tenere conto che un 5 sera o 6 sera ci si ritrova, no? E domani penso che mi chiameranno, dovevo dire tre cose, cinque cose, ma veloce delle grafiche. Allora già lo spostamento a 30 secondi. Allora, primo, è già stato accennato che abbiamo un po' perso di vista la carta dei valori messa in rete una prima volta da Massimo Patrignani, quindi possibilmente gruppo comunicazione rimettere in rete del gruppo Facebook con richiesta di eventuali emendamenti, primo. Secondo, accennare al bilancio partecipato. Salvatore Amura ne sa qualcosa dagli scambi Facebook che ci siamo fatti, e poi direi che, poiché il gruppo di lavoro ha già esposto almeno 5 temi, innanzitutto sollecitato da Giampaolo Rosso, direi questi 5 temi riassumerli in un report trasparente dei temi trattati, di quanto si è deciso, nomi, cognomi, mail e lavoro effettuato. Poi prenderei atto dei vari solleciti delle candidature e solleciterei già da stasera qualche altra candidatura, perché laddove dovremmo fare quell'incontro su urbanistica e i 5 temi del gruppo di lavoro, a me piacerebbe vedere i due candidati, almeno due di questa sala, che si confrontano su quei temi. Allora, urbanistica, candidato A dice, candidato B dice, economia lavoro, candidato A dice, candidato B dice. Queste sono le primarie, direi. E quindi condividere, dopodiché fare il report di tutta questa serata il più trasparente possibile in mailing list e in gruppo Facebook. Grazie. Bravo. Posso dire? Se vuoi rimuovo anche l'intervento. No, nel senso che penso che mi limito semplicemente a esprimere la mia condivisione dell'intervento che ha fatto Marcello Iantono, nel senso che condivido la sua tempistica, in particolare una cosa, cioè sui tempi e sul fatto che sicuramente entro la fine del mese di settembre devono esserci le carte in tavola, e in particolare una cosa che avrei voluto dire, appunto, mi ha anticipato e quindi la volevo soltanto ribadire. Ecco, nell'elaborazione del programma è chiaro che appunto non è che si può partire da zero, perché io francamente la sensazione che ho avuto in alcuni interventi precedenti, anche con tanto entusiasmo e che è un carburante fondamentale, è un po' il fatto che insomma, ecco, ci sediamo attorno a un tavolo e tiriamo fuori, ecco così, delle idee per la città. Io dico che ci deve essere una base di partenza anche in termini critici, perché voglio dire, non è che si può prendere per oro colato tutto quello che è stato fatto in questi anni, però sicuramente io penso che chi ha svolto la funzione di opposizione in questo consiglio comunale uscente e magari anche negli anni immediatamente precedenti, dato che alcuni problemi di poco sono problemi ventennali se non trentennali, e io penso che una base di partenza sulla quale discutere, qualche ex amministratore, qualcuno che ha fatto il sindaco in questa città, insomma una base a partire dalla quale il confronto sia più concreto, e poi sulla base di questo è chiaro che poi ciascuno dei candidati sindaci si giocherà la propria partita nel confronto con gli altri, però ecco, voglio dire, stiamo un po' con i piedi per terra, perché altrimenti appunto la sensazione è quella appunto di così, insomma, una certa indefinitezza. E l'ultima cosa che volevo dire è un po' questa idea l'ho anche espressa in un contributo nella discussione diciamo estiva, io la volevo ribadire qui, insomma, la concretezza, la buona amministrazione. Io penso che questa è l'idea che mi sono fatto io non risiedo a Como, ma appunto sono un extra comunitario che vive a Como, lavora a Como e passa gran parte della propria giornata appunto, nella città di Como. Moltissime persone che sono state citate prima non condividono l'azione di questa amministrazione, la criticano indipendentemente da quello che hanno votato. Tantissime persone, io penso soprattutto poi a tante persone anziane, va benissimo che i candidati siano giovani, però devo dire francamente che non condivido per nulla l'idea che in una lista ci sia un limite dell'età, credo che sia un'idea abbastanza forzante, quello che conta è quello che uno è in grado di proporre, perché se noi stabiliamo un termine anagrafico credo che ci mettiamo su una brutta strada. Allora, dopodiché va benissimo, va benissimo, però ecco, io era tanto per escludere qualcuno, credo che non faccia bene. Allora, termino dicendo questo, moltissime persone, soprattutto anziane, soprattutto diciamo quelle che vivono la città, la critica, una delle critiche più rilevanti, importanti che vengono fatte a questa amministrazione, certo ci sono le grandi questioni, l'idea della città, il futuro, le vocazioni e tutto il resto, e su questo chiaramente dobbiamo impegnarci, c'è proprio l'incapacità di gestire il quotidiano di questa città. Ora, io credo che la svolta vera nell'amministrazione di una città, e io ve lo dico per esperienza di amministratore gli anni passati di comuni piccoli, ma neanche troppo piccoli, ma comunque alcune regole dell'amministrazione sono quelle, la svolta nell'amministrazione di una comunità si vede innanzitutto dalla capacità di intervenire quotidianamente e concretamente sulla vita delle persone. Allora, su questo grande attenzione, sapendo che appunto le risorse sono scarse, saranno ancora più scarse, e quindi è su questo che poi ci si misura, perché il grande progetto non lo vedono in molti, anzi alcuni non faranno neanche il tempo a vederlo. Ma appunto le buche nella strada, la sporcizia, il fatto che manchino i servizi pubblici in questa città, il fatto che non ci siano i giochi per i bambini, che siano degni di questo nome, il fatto che il lungo lago, cioè cose piccole, però piccole relativamente. Io penso che su questo ci voglia un grosso impegno sia nell'elaborazione programmatica e poi anche nell'amministrazione, se come tutti auspichiamo, voglio dire, la partita si potrà giocare e avrà anche diciamo, un risultato positivo. Io volevo un po' rifarmi all'ordine del grammatico. È venuto fuori il discorso di accoglienza di extracomunitari. Se noi lo prendiamo come valore primario, che poi può diventare un valore che va poi espresso negli anni, allora può diventare la carta, un momento di carta di valori, un primo o secondo livello. L'altro discorso, qui mi è venuto fuori che comunque come un ponte di attrazione, ma siamo proprio così sicuri di dover escludere chi non è residente? Perché comunque le elezioni va a votare solo no, aspetta, no, nel primale la votazione no, no, io sono d'accordo sulle generali, io sto parlando delle primarie, ma non ho detto che è il contrario, nelle primarie se qualcuno supporta, sto proponendo la possibilità di estendere il più possibile le primarie, proprio perché diventi veramente un programma condiviso da più persone. Il discorso dei sedicenni va benissimo, noi abbiamo un abbandono scolastico veramente forte e ce ne stiamo dimenticando, abbiamo un tasso di droga che sta diventando quasi a livello nazionale primario, ma perché? Perché non c'è una struttura sociale accogliente per i giovani. L'unica cosa che questa amministrazione ha fatto questa schifezza del lungo lago, che sembra veramente una diventerà tra poco una cloaca, perché quando piove vorrei capire il drenaggio come verrà fatto. Una cosa, questa è una cosa, la seconda cosa è un po' provocatoria. È venuto fuori un discorso del sindaco, i ragazzi di Giorgio ci hanno detto una cosa importante, l'umiltà. Chi deve amministrare questa città deve riconoscere i propri limiti. E deve, secondo me, appellarsi a dei tecnici che conoscano il territorio e che facciano dei piani di governo del territorio reali, non discorsi politici, ma che abbiano un risvolto nelle generazioni future. Io non sono così d'accordo sul fatto di dividere l'ambiente dalla salute, io sono un'assistente sanitaria, lavoro nella prevenzione e le vedo come due cose unite. Il trasporto non è così slegato all'aumento delle malattie respiratorie. Noi abbiamo i bambini che passano a livello di tubo di scappamento delle auto. Qualcuno ha detto non portateli fuori nel momento in cui ci sono tante macchine. Peccato che sono le 8 del mattino, non andiamo a scuola. C'è la neve, non si esce perché si deve uscire. Quindi secondo me il vero problema è uniamo le forze politiche e tecniche e gestiamo questa città nel senso reale. Non è discorso di polis oppure no, è veramente prendere cura di questa città, dei suoi cittadini, dei suoi problemi reali. I problemi reali sono tanti, abbiamo un aumento continuo degli asili nido, una chiusura degli asili nido, abbiamo un abbandono, ripeto, scolastico non indifferente, abbiamo un campus universitario che non esiste, abbiamo problematicose che ce lo stiamo portando avanti. Quindi io credo che già nel programma delle primarie possono essere convogliati quello che noi vogliamo fare nel nostro programma politico futuro. Io grazie. Sentite, abbiamo ancora 3 interventi, se qualcun altro vuole essere 4 interventi, l'ultimo. Basta, così almeno perché siamo diventati troppo tardi, e poi qualche conclusione pratica che è in base alle cose che sono state dette. Ma inserito anche me? Sì, sì. Scusa, ti presenti tu. Sì, ho parlato Vieni, Claudio, puoi venire davanti. Scusa, ma è per far sentire su. Non è per non per altro. Dunque, premetto che il mio pedigree non è esaltante, nel senso che ho fatto la campagna per Moris Pantero e abbiamo perso le elezioni, ho fatto la campagna per Moretti e abbiamo perso le elezioni. Però devo dire la verità, l'entusiasmo è sempre tanto. Dici che è il tuo candidato? No, e quello lo voto. Ho ricevuto l'invito dall'amico Liglia, l'ombra di Peronese sullo sfondo mi ha spinto a venire qui questa sera a sentire un pochettino. Devo dire che l'inizio è stato estremamente deludente. Chi mi conosce sa che sono una persona che dice pane al pane, estremamente concreta. Cioè sentire dire ma lo scopo di questa riunione è garantire la trasparenza delle primarie per me era un obiettivo minimo. Mi aspettavo di sentirmi dire: siamo qui per cercare di vincere le elezioni, adesso o mai più. Vi assicuro che in giro per Como, e io a Como la vivo tutti i giorni, c'è uno scontento enorme. Penso che se noi perdiamo questa occasione non ce ne capiterà più un'altra. Ecco per cui sono perfettamente d'accordo con l'intervento che ha fatto il signore prima. Le primarie sono un passaggio obbligato, ma io vedrei già oltre quello. Finalmente dopo ho visto qualcuno che si è fatto avanti e si è candidato, persona che non conosco, ecco, perché altrimenti mi sembra anche di capire che i tempi siano strettissimi, se stiamo qui a perderci in queste cose non arriveremo mai al traguardo, cioè il traguardo è quello di vincere l'elezione. Allora, a tappe e a marce forzate bisogna dire: ok, le primarie, sì ai sedicenni, sì agli extracomunitari, via. Quanti sono il numero di firme tra le candidature? 150, 200, ma si deve decidere stasera. Cioè i tempi sono veramente strettissimi, ve lo dice uno che ha fatto queste campagne con tanta passione e poi il risultato è quello che è. Io sono qui semplicemente stasera per dare la mia disponibilità a lavorare per vincere le elezioni. Questo per vincere questa volta, poi dopodiché non devo andare. Grazie. Allora, cerco di starci in 3 minuti. Allora, mi volto. 2 minuti, quello che vuoi. Una cosa effettivamente non ho capito e vorrei chiarire bene. Tu parlavi di firmare un programma di coalizione, ma prima delle primarie? Assolutamente no, secondo me. Il programma di coalizione si fa dopo le primarie. Fino alle primarie ognuno ha il suo programma di candidato. Il programma di coalizione è quello che poi si arriva come sintesi. Secondo me questo è un punto dirimente e su questo sarei anche abbastanza preciso. Poi un'altra cosa, oggi pensavo se ci siamo occupati molto di regolamento e quindi sarebbe uscita fuori una questione che è su tutti i giornali in questi giorni, è una questione importantissima e tradizionale della sinistra, cioè la questione morale. Abbiamo visto, è successo a Penati, è successo a Milano. Secondo me nel regolamento, che ripeto deve essere snellissimo, ai 3 punti, 4 punti che avevo aggiunto, detto prima, andrebbe inserito questo, cioè andrebbe inserito, dobbiamo discutere se vogliamo già a monte delle elezioni inserire una discussione, una clausola, una postilla, una nota sulla questione morale che per esempio imponga al candidato di dimettersi qualora fosse indagato, cosa che secondo me va messa. Io sono, poi se non siamo d'accordo non lo facciamo, però secondo me andrebbe messa. Ultima cosa che volevo dire, sto su 3 minuti credo, altre due cose sono che se teniamo le medie di Milano con il numero di firme, le firme per Como sarebbero più o meno 80, fatti i conti della popolazione. 80 secondo me possiamo anche diminuire. Milano era 1000, non era 1100? 1000, allora forse sono un po' meno di 80. E la seconda cosa è che seguendo un po' il dibattito della serata mi sono segnato giù dei punti di regolamento che quelli sono usciti fuori. Un po' come l'ho intesi come consenso che sembrava dalla sala, quindi sicuramente non sono il consenso vero. Se vogliamo fermarci poi un attimo a fine riunione quelli che sono passati di regolamenti ne discutiamo, poi non ammorbo la riunione d'assemblea per tutti. Sì, però va bene, vedi? Potremmo farlo oggi, vedi? Sì, se vuoi. No, visto che la cosa è venuta fuori comunque è molto importante. La mia era semplicemente per capirci, non è che era una critica, ci mancherebbe che non mi invito di parlare a qualcuno. Però il problema c'è, le elezioni andiamo a votare noi che siamo residenti a Como, e si è detto che le primarie devono dare un certificato elettorale di Como. Però su Como gravitano e si sentono parte di Como anche il lago, quasi tutti quelli del lago lavorano a Como e via dicendo, per cui secondo me dovremmo anche decidere questa cosa. Non chi lavora, perché se no ti porta il certificato datore di lavoro, entriamo nella miriade, però quali sono i paesi intorno a Como che hanno diritto di venire a votare le primarie? Cioè fino a dove ce l'andiamo? No. Oppure non facciamo venire nessuno? Cioè io non è che sono io, però il problema è che stanno intervenendo e partecipano molte persone che di Como non sono residenti. Perché la vivono? perché la sento, perché la amo, non per il piacere di farlo vedere. Allora, l'intervento è una cosa, ci sta benissimo, ma poi voteranno anche, quindi decidono i candidati, perché a questo punto se non votano non decidono, cioè l'appoggiano tanto per il più successo. Adesso va decisa questa cosa. Scusate. Milano, l'Interland non l'ha votato, mi sembra. No, no, no. Ha fatto campagna attorale. Perché i primari votano, partecipano chi vuole. Votano i cittadini residenti. Solo i cittadini. Attenzione, il dubbio invece è lecito perché ti ricordo che stiamo parlando di extracomunitari. Sì, ma residenti. No, ho capito. Il dubbio è lecito. Perché ci sono delle persone che sono qua residenti che non hanno il diritto di voto. Non dimentichiamoci. Ma io non voglio un po' No. Anche i sedicenni faceva notare, non votano. La legge elettorale non li fa votare, però. Però i residenti. Allora, facciamo parlare tutti, poi dopo tiriamo le conclusioni. Io non sono in grado neanche di dire una cosa, perché stasera sono veramente stravolta, stanchissima. Il problema è che ci dobbiamo porre, perché a questa assemblea partecipano e intervengono tante persone che non sono residenti a Roma. Poi allora, al di là che poi qualsiasi intervento avrei, non c'è neanche da ragionarci, un arricchimento, cioè, no, questo non esiste nessun problema. Però visto che c'è questa sensibilità, le primarie, siccome non sono poi strettamente legate alle modalità del voto, perché già le stiamo allargando, si può decidere di diverso. Poi raccogliere 200 firme per presentare un candidato il numero di morti, è già un passo. Io sono vivo e non lo faccio. L'ultimo intervento. Non so se avete visto sui giornali, ma mentre noi stiamo ragionando su Como, anche Berlusconi sta facendo la stessa cosa. Nei giorni scorsi ha convocato una riunione dei suoi capatazzi per decidere cosa fare a Como. Mi pare era Como e un'altra città. Monza. Monza. Ecco, Como e Monza. Cioè, questo per dirvi che Como non è, come dire, nello scacchiere dello scontro politico, ha un ruolo non di poco conto. Tant'è vero che vi dico che loro poi naturalmente fanno delle riunioni molto più operative delle nostre, ma secondo me questo non vuol dire che siano migliori, no? Operativi, perché c'è un monarca che decide, questo è abbastanza chiaro. Ora però, ecco, teniamo presente che tutti questi discorsi che stiamo facendo avvengono in una situazione complessiva che riguarda tutto il paese, e quindi diciamo che l'uscita da un sistema di amministrazione non dico monarchica, ma che è arrivata a costruire dei sindaci prefetti, grazie anche a delle proposte della sinistra, tanto per ricordarci il tal signore Bassanini, è un problema di carattere generale. Recuperare un rapporto di democrazia in tutte le città, grandi o piccole che siano, forse è il problema di fondo. E io dico, diciamo che probabilmente allora noi abbiamo già una prima occasione per farci vedere che abbiamo in testa un progetto diverso da chi ha amministrato questa città fino ad oggi e che tenta di riprendersela ancora. E il progetto diverso sta proprio nelle primarie. Le primarie sono un processo di democrazia. Questo qui non mi è sembrato che sia così chiaro come nella testa, ma è un processo di democrazia che noi dobbiamo enfatizzare, e lo dobbiamo enfatizzare nel momento in cui abbiamo il massimo di unità, perché ancora non ci abbiamo i candidati, diciamo, ci sarà un momento poi di scontro anche, ma dobbiamo enfatizzarlo come un nuovo valore su cui ricostruire la struttura, il tessuto democratico della città di Como, come è accaduto a Milano, come è accaduto a Napoli, cioè è un processo di democrazia che vuol dire anche poi amministrare in modo diverso. Quindi ecco, vincere le elezioni, che cosa vuol dire? Portare avanti dei valori di democrazia che altri non hanno. Ah, loro hanno degli staff, hanno dei gruppi finanziari alle spalle. Noi no, noi abbiamo i cittadini, noi vogliamo avere i cittadini. E questo secondo me è la cosa che ci deve differenziare. Per cui vedo un po' come una possibilità di dispersione delle nostre capacità di progetto ideale. Nel momento in cui si formano i gruppetti, l'ARC si fa le sue cose, no, qui deve essere, diciamo, uniamo tutte le energie, non disperdiamoci. I ragazzi che hanno messo a punto una proposta di andare nei quartieri, questa mi sembra ottima, però attenzione, gestiamola tutti insieme, non deve essere. Gestiamola tutti assieme e diciamo questa assemblea forse non può essere un'assemblea di tipo giacobino, diciamo. Ma un'assemblea che si deve dare una struttura, si deve dare un modo di lavorare in modo che tutti partecipiamo. Qui nessuno vuole un leader, io non voglio un sindaco leader, io voglio una città. Qui hanno il processo che sta andando avanti è distruggere i consigli di quartiere, quella parvenza di democrazia, perché hanno loro ridotto a una stupidaggine. La vogliono distruggere, noi dobbiamo ricostruire invece queste strutture di democrazia e di partecipazione. E dico attenzione, ricordiamoci che su questo la gente comincia a capire, no, questi sono diversi. Sono diversi perché non sono andati ad Arcore a chiedere cosa fare per Como. Vengono qui nel quartiere a chiedere a noi nel quartiere come vogliamo che sia questa città. Quindi io spero che nel vostro programma che avete proposto ci sia proprio questo, andiamo ad ascoltare, andiamo a chiedere alla gente, se non c'è questo rapporto, diciamo, di curiosità intellettuale e politica, è chiaro che anche noi non rappresentiamo loro un'alternativa. Io sono convinto invece che da questa città, dagli abitanti di questa città, anche perché soffrono, l'avete detto tutti, la gente è scontenta, ma è scontenta nel proprio vivere di tutti i giorni, compresa la donna che va in bicicletta, cade nella buca e si fa male, o quello che inciampa e si fa male, gente che quindi anche paga di persona. Quindi io dico, attenzione, non ho sentito niente appunto di convincente stasera sulle primarie, come il nuovo valore per riaggregare la città. E noi dobbiamo profilarci rispetto alla città in questa maniera. Quindi diciamo una cosa sola, cerchiamo di organizzarci bene, e qui invito Lidia e gli altri, diamoci una struttura, ma non di burocratica, anche qui i partiti devono dirci, no, i partiti vengono insieme a noi, lavorano, si tirano sulle maniche e lavorano con noi, e noi lavoriamo nei quartieri, e allora questo ha senso, allora significa fare un lavoro di coalizione. Se no, che cosa vuol dire il ruolo di coalizione? Se no ritorniamo alla vecchia terminologia dei partiti, ma non solo dei partiti, ritorniamo un po' indietro nel Medioevo, anche se volete. Quindi dico, lavoriamo in modo moderno, ascoltando la gente, interrogandola e proponendoci anche di mostriamo una struttura di un modo di amministrare che per legge loro tolgono via i consigli di quartiere. Benissimo. Inventeremo i consigli di circoscrizione, inventeremo chissà che cosa, però con la gente che partecipa. Qui abbiamo un esperto del bilancio partecipato finito. Il bilancio partecipato deve nascere dalla gente. Non voglio trarre conclusioni e fare sintesi perché sarebbe sbagliato. Una cosa soltanto che vorrei dire, però, sul ruolo dell'assemblea e sul ruolo dei partiti, no? Secondo questa mia opinione strettamente personale. Innanzitutto, quando parliamo di partiti, a Como oggi io mi guardo una volta per sembrare cosa 12 o 15, no? Adesso guardo e dico partiti, chi è che sono? Guardo PD. A Como oggi, dico, non che non ci siano i partiti, perché c'è l'IDV, io sto cercando chi è un referente dell'IDV a Como. Ma senza, io se lo trovo, Ora, stamattina ho mandato un'email al referente nazionale dell'IDV, un senatore, un deputato di Bergamo, no? Perché ho detto dimmi un po' chi è che è, perché ancora non l'ho trovato. No. Poi, c'è? Oh, bene, no, sono contento. Ma il cellulare, scusa, dove il cellulare? Allora dammi. Va bene. Non lo volevo contattare. Sto dicendo, SEL, abbiamo parlato, no, diciamo, perché molti di noi potrebbero essere in SEL, no, per modo di dire, no, dico, però come altri partiti, c'è Paco, che non è un partito, ma un movimento presente, la realtà, eccetera, dopo, c'è Rifondazione. C'è Rifondazione, infatti, che poi io ho invitato, che è andato via dopo. No, c'è Rifondazione, scusami, che prima che volevo ricordare, poi dopo, però diciamo, signori, io ho sentito in questa fase, noi, perché dopo abbiamo cercato sempre di lavorare in modo collegiale, eccetera, una grande apertura, no? Da questo punto di vista. Almeno io l'ho sentita anche oggi, no? Un incontro informale, ma formale anche, no? Diciamo così, ho sentito veramente, l'ho ripetuto, una grande apertura. Infatti ho detto io, bene, infatti, e secondo me questo è uno dei grandi passi in avanti, no? Il fatto dell'assemblea sicuramente ha dei limiti, la forma assembleare, però io credo che in questo momento, proprio per quel discorso di trasparenza che ha fatto anche Michelini adesso, già collegarla con l'organizzazione, un minimo di organizzazione c'è stata. Non perfetta sicuramente, anche perché tutti noi non siamo esperti di organizzazione, questo, ma abbiamo cercato di condurre, no? la cosa. Adesso sì, ce ne vuole sempre di più, no? Per arrivare a tutto quello che hai detto tu, e infatti siamo qui per quello. Io direi che questa è la base corretta per partire e per organizzarci. Allora, prima domanda, per i tempi, no? 5-6 si intendeva incontrarsi, ma poi chiameranno, no, dico, i partiti, quelli che contano, no? Diciamo Paco, no, nel senso, no, così, faceva la cosa. Dico, ci chiameranno, ma hanno detto che anche noi abbiamo gli stessi diritti, almeno questo è stato uno. Non so se Paco mi dice. Una domanda, perché tu dai contatto delle cose che conoscete voi. Per esempio, no, ma giustamente dico, però dico, forse un'informazione la potevate fare in modo più completa. Cioè, voglio dire, questo 5-6 cos'è? È un incontro col PD o con tutta la coalizione, compreso noi, diciamo. Sì, ma è quello che sto dicendo adesso. No, appunto. Ah no, forse scusami, sono stato io. Ma non è un'assemblea. Non è un'assemblea. No, e questa è ecco, non è un'assemblea. Loro vorrebbero provarci per discutere della carta dei valori, della carta dei valori, del regolamento e delle date. No. Quindi, come? Sì, l'altra volta era uscito dei nomi che avevano dato per discutere di questo, se vogliamo riconfermare, che adesso non me ne ricordo più chi erano, tra cui lei c'era presente, la Tonina Santi, il sottoscritto, ma se c'è qualcun altro, erano in quattro l'altra volta. Ah, il come si chiama? Paolo Faverio che poi ha detto di no, quindi eravamo in tre, no? La Tonina Santi, lei è sottoscritto, non mi ricordo. Forse il caso di andare magari con qualche altro. Certo, se basta dirlo, no? Ma se no, ma basta fare la proposta, dico. Io non va bene. Voglio fare dei nomi, forse. Sì. Tenuto conto della ricchezza dell'assemblea di stasera, certo. Magari arrivare con una delegazione un po' più robusta non è male, certo. Va bene. Soprattutto con un mandato dell'assemblea, certo. Infatti stiamo dicendo adesso, dico, se stiamo traendo le conclusioni operative. Sì, siamo adesso un po' cotta, mi sembrava esatto. Adesso stasera ne parliamo, dico, quello avevamo detto l'altra volta, discutiamo, proponiamo, dico, esatto, proponiamo delle persone che vadano all'incontro per discutere della carta dei valori, su che cosa. Allora io dico, all'inizio Bruno ha fatto una proposta che deriva anche, se non sbaglio correggimi a mano, che non c'è soltanto io, tu avevi fatto una proposta che derivava anche dallo studio di regolamenti fatti, no? Dico, esatto, poi allora è una proposta anche politica. con la quale a me mi trovo perfettamente d'accordo. No? Scusa Danilo, io la prima volta avevo capito un'altra cosa, cioè avevo capito che PD, Paco e aggregati vari avrebbero inviato la carta dei valori sulla quale stavano già lavorando e la stavano già elaborando e l'assemblea ne avrebbe discusso, tant'è che io mi ero meravigliato quando era stata così nominata una commissioncina che andasse per di più senza neanche aver discusso, andava a far che cosa, a dire che cosa, perché era il io avevo capito che il percorso era da una stazione a, e non adesso se poi siamo soliti cambiare. Però se si sta cercando di fare delle conclusioni e dare un ordine e se vengono rinnovati gli interventi, si destruttura la possibilità di avere un minimo di indirizzo. Dopodiché, se il problema è chi rappresenta chi e chi decide per, mi pare che vi sia un'espressione di una potenziale riunione in cui ci si confronta su posizioni comuni o anche diverse, c'è una possibilità di percorso che può essere integrato con una successiva assemblea, ma non penso che ci sia nessuno che limita qualcuno che è presente oggi di dire al 5 voglio esserci anch'io. Bon. Però lascerei concludere chi sta cercando di fare al 5 voglio esserci con questo intervento che si ma non ho problemi a partecipare, non sono presidente comune, non sono nessuno. Poi cosa vai a dire? Il nome dell'assemblea, se vai a dire. Vabbè, se non ne abbiamo discusso. Sì, però e se non discusse delle si è parlato, no? All'inizio anche l'altra volta di antifascismo. Si è parlato anche questa sera di quella clausola morale, per esempio. Sì. Un attimo, scusate. Lo so che adesso è un po' difficile, dobbiamo però l'assemblea si viene e si discute. Loro dovevano portare ci sono state? Scusate, sto facendo una proposta a Giampaolo. Ce l'ho qua anch'io. Giampaolo, fai chiaramente la proposta. Allora, io dico, siccome io per esempio ho piena fiducia di chiunque andrà a rappresentarci. No, è giusto che sia più di uno, ma più per bello marimma che per sostanza. Mentre invece sono geloso del fatto che cosa va a dire si decida qui. Allora, fermo restando che a me va bene anche che la gente cambia, non è che o così o niente, per carità. Io vorrei leggere, visto che non tutti l'hanno letta, facciamo permettendo, 7 valori fondamentali. Valore della memoria, la terra che ospita il monumento alla resistenza europea rifiuta ogni forma di discriminazione e di razzismo e propone politiche locali inclusive ed accoglienti. 2. Valore della difesa della Costituzione repubblicana e della laicità dello Stato. 3. Valore della legalità, l'affarismo mercantile che saccheggia i beni comuni e l'uso disinvolto del denaro pubblico e del potere derivante dal mandato elettivo sono incompatibili con il benessere della comunità locale. 4. Valore della partecipazione dal basso nella definizione delle scelte di governo della comunità locale. 5. Valore dell'uguaglianza per rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo degli esseri umani in tutti i campi della vita. Occupazione, welfare locale, istruzione, salute, ambiente, informazione. 6. Valore della pace e della cooperazione tra le comunità locali. 7. Valore della salvaguardia e dell'uso sostenibile dei beni comuni e della difesa della natura. Su questo io nel mio intervento ho detto che bisognerebbe trovare un luogo per rendere più chiaro anche il valore delle differenze, oltre che dell'uguaglianza. Bene, questa è la proposta che è stata messa in rete circa un mese fa con la richiesta di emendamento. Non è vero, no. Sì, non è vero perché no. È passato in Facebook. No, invece la legge scusate, sono più preciso, 19 luglio, ore 6:30. Facciamo una girata della mail. Anche della mail. Va bene, facciamo girare tutto. Allora, però riassumendo, la carta dei valori. è stata fatta una proposta, girerà anche sulla mailing list e chi ha il fax, una persona che l'ha lasciato l'altro giorno, è stata invitata via fax oggi all'assemblea, gliela mandiamo anche via fax. Si dà un termine entro il quale viene provata. Seconda cosa, ci sono stati, secondo me, un principio fondamentale che è stato quello accennato da Magatti, di allargare anche la possibilità di voto a chi ha 16 anni e agli immigrati, che si potrebbe anche, secondo me, mettere un pochino i voti sempre dando un termine e sempre facendo girare la cosa via internet. Si fa un riepilogo della serata, ma adesso, secondo me, per chiudere bisogna nominare il portavoce. Per quanto mi riguarda, io do fiducia a Danilo, che finora l'ha fatto egregiamente, con grande trasparenza. Se qualcun altro vuole aggiungersi, si propone, e poi le persone vanno a dire le opinioni dell'assemblea che vengono trasmesse come il resoconto che verrà fatto circolare in questi giorni. Io credo, no, solo da, si può fare un'alzata di mani? Sì, aspetta, da volentario. Sì, volevo dire una cosa l'ultimo. L'ultimo. Non porrei il limite per quanto riguarda la partecipazione alle primarie della residenza comune. Cioè, questa cosa non mi. Cioè, non lo so, non mi convince. Cioè, io ci. Ci rifletterei. Adesso però. No, è un problema. Vabbè. Teniamo in considerazione. Facciamo la fatta di mano. Chi è d'accordo con chi è d'accordo per Danilo? Chi è che vorrebbe partecipare a questa delegazione? No, prima. Ad esempio. Cadonati, aspetta ancora. Scusami, perché un attimo di pazienza a tutti, ma è sempre così. Giustamente diceva lui. Poi c'era la data delle candidature, indicativamente, se possiamo già metterla. E il numero delle firme che aveva detto anche lui, perché ha deciso stasera. Anche io non so se questa fa discutere adesso o in che modo, però la riunione verranno fuori queste cose. Io propongo il 20 settembre, faccio una prova, 20 settembre. Allora, sul numero di firme, secondo me bisogna fare una riflessione e pensarci un attimo, perché ovviamente 200 da una parte può essere un numero congruo, però rispetto ad esempio a Milano, che era 1000, non è proporzionale, però anche 50, ok, sarebbe anche un po' ridicolo 50. Allora, prima del 6, scusate, io faccio una proposta. Dalle ultime date, sì, sono tanti, ma tu fai 83.000, 83.000 sono 80, 1 per 1000 è interessato a dare a questa riunione per la carta dei valori, per le c'era il Edoardo Sponitoro, che era l'altra persona che veniva invitato. Qualcuno si era già presentato la sua volta? Sì, era Edoardo Sponitoro, Cristina e la sottosegretaria e Tonina Sani. C'è qualche altro? C'è qualcuno altro? Io propongo anche la Marta. Sì, io. Marta, io propongo la persona. La Marta ha detto che lei sarebbe disponibile. No, se vuoi. Io accordo quindi su questo gruppo di delegazione e vado un po' a presentare un po'. Che d'accordo? Possono votare anche i non residenti. Però voglio capire. Residenti a Como. Un censimento. Portando quella. Portando il documento che ha letto. Portando il documento con eventuali. Cioè, siamo qui in un'assemblea che la più grande che abbiamo fatto, cominciamo a votare qui. Poi sì, si sanno anche i pareri su internet. Questo documento è stato messo a luglio. Io non l'ho visto. Allora, io aggiungo una cosa tecnica. Facebook non arriva a tutti, non la penso con la prima. Ma che c'è un doc pronto che prima cosa? Se vogliamo votare, io aggiungerei quello che ha detto anche Gianfranco sulla diversità, il valore della diversità. Non adesso, certo, fai un pezzettino. Ok? Votiamo anche questo documento. Chi è d'accordo andare in delegazione con questo documento? Io sono del pezzo da 4 documento. Ok. La prossima attenzione. Cosa avevamo detto che la funzione a far girare su continenti a noi non andava bene, dovevamo andare con loro. Allora andiamo con loro. Aspetta, aspettate un attimo. Guido, c'è, no, non ho capito, dillo anche a me. No, dice che è perplesso con l'andare con un documento. Allora chi era perplesso? Vieni. No, c'è una discussione importante. Facciamo. No, ma è importante. Lui dice: sono perplesso di andare con un documento. No, allora scusa, cosa vai a fare? A guardare gli altri e a dire quello che ti sorge dal cuore? Dobbiamo votare. Valerio, Valerio, avevi qualcosa da dire? È una cosa che ti va in internet, perché sennò la riunione finisce domani mattina. No, basta. Quanti voti non riesco a capire, sono venuto qui questa sera per la prima volta dopo anni a partecipare a un'assemblea di questo tipo, sapendo di non poter tornare poi avanti spesso, con la sensazione di dire finalmente arrivo in un luogo dove si va a costruire democraticamente dei candidati per trasformare il modo di far politica, che in Italia ha rotto i coglioni a tutti. E secondo me l'hai trovato. Questo ma è il motivo che mi ha mosso. Allora, in questo motivo, quello in questa assemblea, io mi aspetto due cose sostanzialmente. Che compaia, emerga qualcuno che possa essere da catalizzatore per costruire intorno a sé delle idee che diventino delle proposte che arrivino al territorio. Poi questo catalizzatore rimarrà lui, sarà cambiato altro, però devono esserci dei candidati e questo deve essere fatto naturalmente. Una seconda cosa, che non ci siano logiche di partito. Allora, dire che ci sono 250 voti significa che il partito, facendo semplicemente un'assemblea, ha trovato il suo candidato. Allora diciamolo apertamente. Per me i voti possono essere anche zero, volendo fare delle domande. I discorsi, voglio estremizzare tutto anche il resto, di quei discorsi anche di portare e andare a formare una delegazione, la quale discute poi con qualcuno che è abituato a logiche diverse, da sempre abituato a logiche diverse. Questo discorso porterà facilmente a far scivolare questa delegazione in posizioni che poi non si ritroveranno in assemblea. Io arriverei a proporre addirittura, facciamo una tavola rotonda con tutti i seduti. A me piacerebbe avere un comune che mi proietti in piazza le sedute del consiglio comunale. Io voglio avere trasparenza. Ha ragione, potremmo anche fare una variante, no, diciamo, di fare una riunione di dove noi discutiamo e questo documento venga poi portato. Noi possiamo proporre di portarlo in discussione a un'assemblea pubblica, non so se questo, perché un documento qualcuno lo deve mettere su, perché questo è un dato di fatto, no? Poi sono d'accordo anch'io, perché se io vado là e mi stravolgono e mi dicono no, tutte quelle cose lì, è logico che io mi dica. Allora questa assemblea deve garantire. Noi vogliamo. Deve garantire questo. Allora garantiamo costantemente che ci sia il massimo di trasparenza. I giochetti, che prima io sentivo dire, ma il adesso mi sfugge di chi? La coalizione. Allora, se la coalizione nasce da questo incontro, da questa situazione, è una coalizione. Se la coalizione nasce su tavoli diversi, dove qualcuno si raduna e dice facciamo eccetera, e mettiamo insieme i partiti, non ne frega più nessuno in Italia, non gli interessa più nessuno. No, scusatemi, ma perché visto che comunque dobbiamo aggiungere i tempi, il 5 e 6 lo facciamo con apertura al pubblico? Qualcuno visto che c'è ma noi diamo mandato, dando mandato a delle persone, ci fidiamo delle persone. La democrazia è dare mandato anche, cioè. E poi io mi sento rappresentato da chi andrà lì. Non c'ho bisogno di riprendere. No, vediamo. Se va, col momento abbiamo votato. E non si transige da di fermarci qui. Delle decisioni abbiamo preso. Sul numero delle firme si è parlato di 80-100, dopo ci confronteremo, perché anche gli altri diranno la loro. Io ho sentito prima Perché una persona sia rappresentativa non è che deve nascere rappresentativa piove dall'alto. Perché ci sono le assemblee? Perché c'è l'assemblea? Perché le persone manifestino, dicano quello che pensano e pian piano diventeranno. Però questo problema, scusate, l'abbiamo già affrontato nelle prime due riunioni. Abbiamo detto che a tutta legittimità la persona che viene qui e partecipa all'assemblea come i partiti. Perfetto. Come i partiti. Ok, lo rivendichiamo. Quindi noi incontreremo i partiti e chi va a incontrare i partiti ha un mandato preciso, per di più vincolato da un documento. Mi sembra già una roba. Cioè, mi sembra a posto. Sul numero, così mettilo in linea sulla email, su Facebook e tutto, e poi si decide. Non te mica possiamo chiudere a luna di notte. L'ultima. Allora, la scadenza certamente prima del 5, perché siccome c'è una riunione importante, 5, prima del 5, con il claro, chiederemo di farla al 6 da riunione, no, capito? No, ecco, esatto. Quindi prima del 5, così chiudiamo, ha chiesto la parola per ultimo adesso, Luca. No, una cosa, questo del problema della trasparenza io lo sento molto e secondo me è un problema reale. Il problema della trasparenza si raggiunge con informazione. Io rilancio per la seconda volta una proposta ecoinformazioni. Noi abbiamo bisogno, come nella situazione in cui è, perché non esiste un mezzo di stampa o un mezzo di Facebook o un blog in cui si possano trasmettere notizie e opinioni in maniera neutrale. Quindi io rilancio questa proposta e propongo che l'Assemblea proponga a chi ha questi mezzi di farsene carico, perché è un dato fondamentale. Quello che dice lui, la cinepresa, dovrebbe essere svolto da chi? Da quelli che lo fanno in professione, cioè dai giornalisti. E purtroppo a Como non abbiamo questo tipo di informazione. Quindi io rilancio questa proposta. Certo. Assolutamente. Secondo, per quanto riguarda la delegazione dei partiti, io ho un punto fondamentale. Secondo me si potrà vincere se noi formiamo una coalizione di programma e non una coalizione ideologica, cioè con una coalizione che per motivi pregressi esclude o include qualcuno. A me interesserebbe costruire una coalizione di programma e collaborare con tutti, ripeto, tutti quelli che ci stanno su un determinato programma. Aspetta, no, qua c'è un piccolo punto che dobbiamo dare anche di dirci. Tu vuoi che ci sia il programma di coalizione che esca da questa riunione? No, questo però è importante, perché il programma è il Detto un'altra cosa, cioè che se deve essere un programma che nasce dal basso, se qualcuno dall'alto ci impone guarda tu non puoi partecipare perché sei bianco nero, e allora dov'è sta democrazia? L'ho visto, va bene. Io direi che possiamo concludere la serata, l'assemblea, e la prossima assemblea verrà organizzata ancora meglio. L'otto! Noi dobbiamo sapere all'arci l'otto. Ah, ecco, sì, esatto. Scusa, no, ho pensato io. L'otto è il gruppo comunicazione. Allora, per l'otto, il gruppo comunicazione e Giampaolo Rosso domani mattina, se non adesso, si sentono per verificare le condizioni per fare questa iniziativa che deve essere fatta. Perché è l'8 di settembre che era quel dato che è evidenziato che anche nel nostro lavoro di gruppo di comunicazione c'è stata poca trasparenza, non domani, ma presto, di fare un resoconto anche più aperto. Però per l'8 mi raccomando, tanto il telefono, la mail, la Facebook, chi vuole partecipare. Scrive a prima di scusami Danilo, come prima abbiamo detto che qualunque gruppo di lavoro fatto dalle persone relativamente rispettabili da voi, no? Deve avere un mandato più preciso. Allora, aspetta, che sia chiaro, questa assemblea è la proposta dell'ACE, non è un'assemblea di confronto tra programmi di candidati diversi. È invece un luogo in cui la città, a partire da persone che per competenza hanno già, come diceva più qualcuno, non è mica l'anno zero, su molti di questi problemi giudici da una vita, allora a partire da chi ha più competenze, pone sotto forma di lettera al candidato quello che per signor Pincopallo è opportuno fare per la questione dei servizi sociali. Con lo stesso titolo però di chiunque passi dalla piazza che può anche lui dire quello che è. Dopodiché tutto questo viene ascoltato da tutti, non diventa un documento, ma viene assunto come ulteriore allargamento di un gruppo che per quanto singolarmente vasto è comunque molto piccolo, anche quello di Pesco. Posso dire una cosa su questa proposta di Rosso? Ecco, io invece dico stiamo attenti perché la cosa interessante è un'iniziativa dell'ARCI che secondo me tale deve rimanere. Non è un'iniziativa di questa assemblea. Noi possiamo partecipare, scusami, sto dicendo la mia opinione. Quindi dico proprio dal punto di vista metodologico, siccome qui non si tratta di andare in fiducia o in sfiducia, ci sono dei metodi di democrazia da usare. Quindi il metodo è questo, qui è un'iniziativa dell'ACI, fra l'altro io l'ho letta sul giornale prima ancora di saperla da voi, mi va benissimo, è una cosa interessante, ci andrò, però non è un'iniziativa di questa assemblea e quindi parteciperemo a titolo personale e io non vedo che non bisogna dare nessun mandato a nessuno. Enzo Antonio ci ha scritto che perché l'aveva scritto, forse si poteva leggere questa proposta, quando è stata fatta questa proposta? Nell'attesa che questa proposta maturi, visto la richiesta, l'ARCI ha prenotato l'8 settembre un'opportunità che cediamo a Primarie Vere, che auspichiamo sia promotore diretto. Chi vuole farsi promotore di questa cosa? Non abbiamo discusso in assemblea. Il problema è che no, guardate che è un metodo che introduce un principio pericoloso. Domani chiunque può prendere un'iniziativa e dire che non è stata approvata dalla sentenza. No, noi la stiamo approvando adesso. E io mi oppongo, poi mi può dire il voto. Garanzie, sì. Io dico. Però siccome noi ne avevamo già discusso, Direi di mettere i voti nel senso di dire come avevamo votato prima, ma non, non vediamola con una cosa che crea spaccature particolari. O chi è d'accordo su questa di cioè fare assieme all'arci, d'accordo? Io sono d'accordo. Qualcuno che non è d'accordo? Io sono contrario. Arrivi. Scusami, lui era d'accordo e poi non d'accordo. Chiudiamo qui l'assemblea. Grazie a tutti.